1, 2, 3, prova. Hola. Hola. 1, 2, 3, prova, grazie. Ah, potrebbe andare così, dai, già non ripete molto. Ma come mai l'hai spostato? L'ho spostato involontariamente, ma adesso non ho capito quale. No, ma io lo regolo bene adesso, adesso va bene. Oh, la 1, 2, 3, prova, va bene così. L'ho spostato, volevo alzare il volume del parlascolta e ho sbagliato la regolazione, ho toccato un altro cursore. Vabbè, e io a volte è così. Ma a volte andiamo a toccare e poi non fa mettermi l'altro giorno, è sparito di spedire la radio grande. Mi sono spaventato lo stesso, com'è. È accaduto anche a Valerio. Ho toccato un tastino volontariamente. Ora, 1, 2, 3, prova, eccolo qua. Bello. Ora, 1, 2, 3, prova, cambio. Oh, non tocca se. Così va bene, no? Bene, no? 1, 2, 3, prova. Eia, così è come sempre, come ce l'avevi sempre. Andare. Cazzo, sai cosa ho trovato a casa? Cerca che ti ricerca. Dizionario dei termini sessuali. Allora, la tapiniana che le serve è sempre a carretta a mano. No, ci sono tutte le parole che si possono dire quando fai... le parole sessuali, ecco, che si dicono in genere. Ho capito. Già va bene. Io stamattina un po' posto qua. Ho tolto dentro l'armadio il mio. Lo stavo guardando quello di Eugenio, mamma mia, la biscia c'è. Vabbè, comunque. Eugenio, ho fatto un amico adesso per se riesce a... con la strumentazione se riesce a metterglielo bene a posto. Intanto io ho tolto il mio, un po' a farle prendere aria. Stavo ricevendo con quello, adesso sto trasmettendo con questo. Oh, stavo diventando scemo, Cla. Ci ha telefonato il capo condominio, se voleva il numero catastale della casa. Zecca anch'i da, ui, per carità, poi dopo 5 minuti me ne vengo, quella di fronte, quello di su, che non riuscivano a trovare il numero catastale. E ho detto, guardate, datemi una 5 minuti di tempo che devo farlo anche io e devo trovarlo, perché mi ha chiamato e lo vuole entro oggi, perché domani deve presentare il tutto. Ma per il cambio dei contattori? No, perché a fine anno il condominio, le spese che hai fatto, te le puoi scaricare, no? Ti fa il foglio e ti deve mettere tutti questi dati, numero di codice fiscale, questo, quell'altro, capito? Ah, sì, no, non ce lo fa direttamente l'amministratore. Capito? Lo fa direttamente l'amministratore, lo compila, poi me lo dà, io lo allego alla dichiarazione dei redditi, capito? Sì, ma quest'anno ha cambiato, funziona così che l'ufficio del catasto richiede certi dati, capito? Il numero di codice catastale, eccetera. Vogliono il numero, come si chiama? Non mi viene il nome, ma fa... Vabbè, comunque... ti richiedono un sacco di roba e stavo cercando i documenti, non li trovavo, un casino. Poi sono venuti quello di su e quello di fronte a vedere se sapevo dove era questo numero catastale. Ho detto, sarà dove c'è la preventiva della casa, sicuramente. Cerca che ti ricerca, l'ho trovata allora e non ho trovato i documenti. Sì, non c'è la preventiva, ti chiedono il mappale, numerizzazione al catasto, tutte queste cose. Sì, no, io ho una cartella, l'ho presa anche da poco, quindi c'ho tutto. Sì, vabbè, ma il nostro amministratore c'ha tutto, e questa era una cooperativa, quindi capito. Poi quando è stato fatto l'atto tutto incorporato, poi abbiamo fatto quelli separati, quindi c'è tutto delle case, ce lo fa lui, non mi ha chiesto niente ancora, vabbè, forse ancora presto, non mi ha mandato neanche la banca il foglio per la dichiarazione dei redditi, vabbè, lo manderà, ci ha tempo ancora, non riusciamo a rete grossi, mamma mia. Io sono tutte rotte di balle, perché queste cose gli ala che le mettevo apposta e cose, quindi se non si trovano è un casino. No, no, cartella c'ho io, dove c'è scritto appunto casa, e c'è tutto lì dentro, capito? C'è anche l'atto che aveva fatto un taglio manica, figura di Gianna Righi è morto. Manica morto, è quello che ha fatto l'atto a me, sì, non Giovanni. Giovanni Manica è coso, è morto, ed è Francesco Manica, siamo tutti due nottate, quelli sono morti. Però Giovanni è vivo, non me l'ha fatto Giovanni a me, me l'ha fatto Francesco col padre, il vecchio. A noi ce l'ha fatto Carrini. E invece poi l'altro me l'ha fatto Pittorno. Mario, dottor Mario, che è il fratello del giudice, del procuratore. Sì, sì, della dottoressa Pizzorno. Io, sì. Me l'ha fatto lui, perché bravo, poi si spende molto meno. Si spende molto meno. E quindi l'avevo fatto fare da lui, questo, capito? Adesso anche l'altro lo stesso, c'è cioè tutto in mano lui, sta facendo tutto lui. Invece io ieri sono andato dal cardiologo, io ho fatto la visita 4 anni fa dal cardiologo, ho pagato 80 euro. E avevo telefonato e ho detto scusi, so che è convenzionato con la SEL. Dice sì, però non ho posti per la convenzione, te facendolo in privatamente, sì, facendo privatamente anche stasera alle 3. Cazzo, ho detto che basta, se sono andato lì non c'era un'anima. Ma viva Ocla, lui lo voleva fare solo a pagamento, capito? Bastava. Sono arrivato lì 80 euro 4 anni fa. Sono andato ieri dal cardiologo 50 euro, mi ha fatto la stessa visita. Cos'è Fontina Luci? Io lecco collo, lecco l'occhio lo stesso, 50 euro al colpo, 50 euro al policlinico, capito? Mentre da Urigo 75 euro, tutte e due. Lo so, perché l'ho fatto anch'io da Urigo, l'ho fatto l'altro giorno lecco collo. Sarebbe l'esame alla gola, delle vene della gola. 75 euro, io l'ho fatto al policlinico 50 euro. E io l'ho pagato 75 euro perché mi servivano velocemente per quella domanda lì, e quindi non potevo farne a meno, dovevo fare tutto veloce. E io ho dovuto, sono già tutto organizzato, capito? Quindi sono andato lì. Vabbè, niente, aspettate, ce la metto, ho tutto a posto, ho tutto pulito, ma dentro l'armadio poco non ce n'è, e niente, non vado alla staffa, se non vado alla gemma, è andata alla staffa. Appaga, e non funziona quello lì, non va bene. Il mio, se il mio non lo stavo ricevendo con quello lì, quello fa. Quello staccato, adesso lo metto a posto, mio nuovo nuovo, rispettiamo, ho più di 5 anni, ho una concessione, quindi lo devo tenere per forza. No, quello di Eugenio è nero, il bracciato è nero, il mio originale, capito? E l'ho dato un amico a sistemare, un amico, diciamo, un laboratorio qua a Sassi, non è Vittorio, non è vita qua, il mio palazzo, di fronte a me, dai. Capito? Gavino, non so se lo conosci, non è il cognato di Massimiliano, però un altro, è qua in via Umana. No, no, non lo conosco, io conosco Gavino, il cognato di Massimiliano, no. Lo conosco anche Gavino che fanno i radiotecnici, ma giusto apparati o che cosa fa Radio TV? Radio TV un po' tutto, Radio TV un po' tutto, che meno quello fa Vittorio, quello fa Gavino, uguale. C'è anche il baracchino, c'è il baracchino, c'è un portatile del 40 canali che aveva tanto metro, ogni tanto già entrava prima, ma non entra di più, e va bene qua, vabbè che ci siamo vicini, io Antonello, ma sicuramente già arrivo anche da te. Cavagar. Vabbè, scemo meno 20, il nostro amico Marco, dov'è oggi, dov'è? Marco sarà ancora nel mondo dei sogni. No, mai, non è vero. No, ma che? Mentre non dorme la sera, ma che? Giù. Ratta pignola, ci sei, gabbia. Nada da nada, riesci a vedere una cosa, se mi ricordo quale, ora, Attenzione, ratta pignara, ci sei, gambi. Non arriva, arriva. Tu non hai gara di entrare, questo era ancora il mondo dei sogni. Io mi sono svegliato perché mi ha suonato quella di fronte. E la gittata non trovava qualcosa e questa la voleva, cioè ti telefono all'ultimo momento per chiederti le cose. Dammi il tempo di recarli, no? Voleva tutti così il numero. Queste cose qui non è che le prendi tutti i giorni in mano, devi anche cercare le cose. E è venuta tutta gittata, ah già ricercavi questa cosa che non lo trovo, la vuoi subito. Ehi, ti ho detto tutto male che vada, non gli vai e basta, cosa di naffino. Non c'è problema, e questo capocondominio bisogna giamballo, è un pochettino nervosetto. Ehi, lui ha capocondominio, c'è tutti a contusiuio, o il nostro già calmo. Mi sembra che calmo già si calma, soprattutto con me, sempre bello, tranquillo e scherzoso. Una volta siamo attaccati ai gridiani, un paio di anni fa. Gli ultimi che dove sei entrato, io non ti faccio uscire. Ti faccio uscire dall'altro cancello se mi rompi le palle. Quindi rilassati. Stai molto rilassato quando parli con me. Non sei più permesso se levarmi la voce. No, ma a me mi ha fatto una portata che se non fossi stato dal cardiologo ieri l'avremmo andato in quel paese. Mi fa, chi è il proprietario della casa? E ho detto io, perché? Perché? A me non mi risulta che sia lì. Come non mi risulta? Mi risulta che dei in usufrutto, sono in usufrutto, sa perché? Perché l'ho intestata a miei figli per non farli pagare la tassa di successione. Allora che cosa vuol dire questo? Che non è casa mia, allora non ci venga più a casa a prendersi il condominio, gli ho detto. Perché questa non è l'aria, io non sono in usufrutto, ma che discorsi sono? Io poi ci vado vicino che mi piace, capito? Fino alla morte sono, sei sempre tu il proprietario. Si fa per non avere problemi dopo, capito? Tu hai due figli e vabbè, io ne ho una sola, quindi sarebbe ancora di meno il danno. Però si fa per risparmiare e soprattutto per essere già tutto intestato, non succede niente. Vi fanno pagare la tassa di successione, dopo li fate pagare una bacca di non so quanto sia, però so che è molto grossa la tassa di successione. 3.000 euro la tassa di successione, l'ho fatta io quando mio cognato per la quota di mia moglie, perché io ho comprato qua, ho comprato la quota di mia moglie, capito? E quindi hanno fatto dovuto fare la tua successione, è costata 3.000 euro a vantaggio. Guadagnano loro e basta. Infatti io devo evitare questa cosa, siamo andati dal notaio con Liliana e abbiamo fatto questo affare. Abbiamo deciso di intestarla direttamente adesso, di modo che poi non paghino, quando sarà, non paghino più tasse di successione. Tutte e due però l'avete intestata. Beh, normale, se al 50% uno, 50% altro. Quindi per quello che sto dicendo, nel momento in cui uno vuole rimanere lì, l'altro deve dare la metà del costo dell'appartamento, capito? Come ho fatto io con mio cognato, l'altro la metà della quota dell'importo dell'appartamento, della votazione dell'appartamento. Però io ho la via da sola, quindi non è stata direttamente a lei, è già proprio lei la proprietaria, capito? È già lei la proprietaria, quindi quando ci saremo più noi lei ne farà quello che vuole, se la vende, la regala, fa quello che vuole. Basta che non ci ammazzino per prendersi la casa. Giorno dolce. Oh Finocchi! Meno male ti sei svegliato. Oh pipistrello. No, io già sto sveglio, no. Non crediate che stessi dormendo, stavo facendo acquisti su internet. Piccole cose per mamma. E allora, oggi siete entrati presto, prima del calare del sole, come mai? Ah, ho già, ha ritirato oggi c'è due oggi, due mi pare, due, sì. Ha ritirato le rimane già fendo acquisti, Chi l'ho pensato? No, per mamma, le ho ordinato un libretto di cucina, qualche accessorio per la cucina, tutto lì, però i miei non li ho intaccati ancora. Ma sto cercando di resistere, ma la mano sta andando verso il tablet, capito? Verso lo smartphone. Marco, questa si chiama sindrome da shopping. Ma c'è di tradizione che con Eugenio stiamo organizzando una pizzata, non rompere le palle. Se mi durano, li di là. Dalle a me che te li conservo io, dammi 20 euro, io te li conservo. Perché bastano solo 20 euro? Io crevo almeno 50. Così la domenica poi ti puoi riposare. No, no, bastano 20 euro, non ti preoccupare, con 20 euro a testa ne stiamo tutta la sera mangiando. Cioè se tutta la sera? Io mangio poco, no? Ma cos'è? Tipo pizzeria, ristorante, tutto c'ha. Andiamo al tie break, Toretto, e facciamo il tie pizza, capite? Un giro pizza a tutto andare, non solo. Giro pizza, giro polpette, giro di ghiaccio che ti piace. Ah, ecco, sì. Eia. Ah, ecco, sì, hanno gastronomia di tutti i tipi. Lì viene voglia di assaggiare un po' di tutto. E allora, la sera che vengo devo stare digiuno dalla mattina, per riuscire a mangiare qualcosa in più. No, guarda, è 10 euro per pizza, ok, a testa. Però le bibite sono a parte, quindi noi partiamo con 20 euro a testa, siamo tranquilli e siamo tutta la sera a mangiare niente. Ma pizza però, pizza di tutti i rimanere, anche quella con la Nutella. E vabbè, io già mangio poco, lo sapete. Posso mangiare una pizza tonda e voi già vi potete abbuffare, insomma, finché ci sta. A meno che non vogliamo assaggiare poco di tutto, un assaggino ma di tutto. Se non so se si può fare. Ci facciamo fare tutto noi, che la padrona, non ti preoccupare tu. Ci facciamo fare tutto quello che vogliamo. Capito? Poi alla fine, quando abbiamo mangiato e bevuto, balliamo pure sopra il tavolo, vero già? Ah no. E dillo a voce alta, che vi devo annunciare una cosa. Nada, già, io. Il nuovo dottore che ho preso mi ha quasi fatto guarire il piede. No, non me lo dire, sono contentissimo, hai visto? Che in mano alla gente che non serve a niente. In 3 settimane il taglio è quasi chiuso. Praticamente mi ha detto che la cura che mi stavano facendo era giusta per l'inizio, poi era sbagliata farla dopo, perché ha detto che all'inizio doveva asciugare la ferita. Una volta asciugata non bisogna più mettere nulla, bisogna mettere solo una calza con la gomma a piuma, perché si chiama ulcera da pressione, come tu comprimi la ferri aprire, quindi cosa deve esserci? Un ammortizzatore, qualcosa che ammortizzi, che sono delle calze che hanno la gomma a piuma, senza medicare, senza nulla. In 2 settimane era già quasi chiuso, adesso ci passa uno spido e basta, comunque già te lo invio, se non ti fa impressione te lo faccio vedere. E praticamente mi ha detto che continuando a mettere queste medicine bruciava anche le cellule buone e si formava il callo. Ecco perché il callo si formava, perché mettendo queste medicine bruciava le cellule e la pelle diventava secca, capito? Hai capito? Perché non avevo preso nulla? No, ha detto che doveva fare l'ortopedico e basta. Ha detto, io non voglio offendere i colleghi, però se uno non è in grado di fare le cose lo mandino dove. Perché non è venuto subito qui al centro diabetico mai? Io ho sofferto, ho sofferto tanto per niente. Continuiamo a essere ad una mala sanità, continuiamo a essere in mano agli sciacalli. Eia, mamma si voleva operare alla gamba qui a Sassari. Ma ce l'hai? No, a Sassari direi di no. È meglio Alghero qua. Io mi sono operato Alghero e non ho avuto problemi. A Sassari sono un po' macellai. Una ragazza si è messa a Gucci quando c'era, un giorno mi stava medicando, e l'altra gli ha detto, lei mi ha rovinato, mi ha messo la protesi più corta dell'altra gamba, adesso io cammino zoppa per colpa sua, vado in prefettura, in prefettura, non so cosa che sarà, la denuncio, di tutti i colori gliela ha detto. Eia, a proposito, sai che io avevo una gamba di 5 mm più corta dell'altra, 5 mm, cioè occhio non si vede ma si vede dalle radiografie, quindi avrei dovuto portare un plantare anatomico per 5 mm, invece non l'ho mai portato. E però non ti è mai stata corretta questa cosa? Oh, non me ne ha fregato nulla io, secondo loro dovevo mettere un plantare in ogni scarpa che mettevo. per 5 mm cosa vuoi sia. Tanto qui la schiena è da già curva per conto suo, non sarà certo quelle 5 mm, cosa vuoi siano. Invece c'era un compagno di scuola di Valle Doria, lui aveva la gamba visibilmente più corta, ha dovuto fare un coso per allungare la gamba, gli hanno messo, sai che cosa Gianni, il Baryshnikov, quella specie di strumento di tortura, no? Che ti manda dei, praticamente ti separa l'osso, lo tiene in tensione aperta in modo che si calcifichi e si allunghi, ma è una tortura quello mio. Lo so che è una tortura. Anche a vederlo fa pressione, c'è tutta questa corona di ferro con questi spuntoni di ferro che ti entrano nella gamba, non ti inganni. Ebbene, bene. Allora, per festeggiare paga Gianni, dai. No, paghiamo tutti, non Gianni. Gianni si paga il suo. No, dobbiamo festeggiare, deve pagare Gianni. Se no che festeggiamento è? Ma per questo, ma quelle 10 euro dategliela a vedi. Boh, non me le ricordo, già, te l'avevo date quelle 10 euro. Io sì. Sicuro sì, già, va avanti, mi dai. No, già me le dai. Ma vedete, il pistrello senza alighe. Quindi hai mangiato, non hai pranzato ancora? No, è presto. Che ore sono? Il pendolo si è fermato qua, si è scaricata la carica. Che ore sono? 7.50, 17.50. Ehi, alle 6.30 mangio, come cala la tenebra, tipo i pipistrelli, no? Polo con le patate, anche oggi per dire. No, a me piace. È buono anche con le olive il pollo, fatto alla cacciatora. Ce l'ha spiegato quello di sotto che è cacciatore, infatti è molto buono, con le olive, condito come dice lui, cucinato come dice lui, ma anche con le patate è buono. Fatto al forno o in tegame? Diciamo fatto al fornetto elettrico. Ah, vabbè, pollo con le patate già è buono. Oh, in tegame mia moglie lo fa così alla cacciatora, come fa i cinghiali, capito? Con le spezie, le olive, tutte le cose che ci vogliono. È molto buono, sembra quelle costine di agnello. Vabbè, ma non parliamo di mangiare, troppo presto ancora. E quindi già sei contento, appoggi bene tutto adesso, ti si sta chiudendo totalmente. No, ancora non lo sto appoggiando perché c'è un puntino col passo un ago. Te lo mando, vai. Mandamelo a vedere. Giornata brutta però, no Marco? Né caldo, né freddo, bamba, sole, niente. È sempre grigia. Così, stamattina siamo andati dai sindacati, come si chiamano, CISL, cos'è? Mamma aveva chiesto il documento già tempo fa, gliela facciamo avere per il 2, va il 2, non so chi non c'è, non è pronto, insomma ogni volta deve passare più e più volte, o perché non c'è l'addetto, o perché già si chiede lavorare se ne va al bar magari, bisognerebbe fare una segnalazione, o non è pronto perché non funzionava il computer, ogni volta c'è una scusa, questi dei cosi non servono a niente, questi dei... Le sindacati, boh. Guarda, ognuno mi sembra di tirare l'acqua sul mulino, lascia perdere, voglio che ti dica. Vabbè, oggi la voce è un po' così, niente di particolare, invece che vado a vedere questo piede di Gianni. Eia, sento rumore di lavatrice. Allora mamma ha messo la lavatrice, senza ordine, deve chiedere l'ordine a me. Perché? Così, perché lei la spascia sempre, cioè io la so usare la lavatrice, però lei la sa, piano piano la sa, la sta sbagazzando. Minchia già, se adesso sei così come eri prima. No, aspetta, quello è prima. Ah, me ne hai mandato tre. Però ce n'è una sola, grappa grappa, quindi così eri prima di andare da questo nuovo medico, così è? Eia! Minchia ogni buco, che allucinante, quindi sei entrato la bottiglia dentro. Ma già che già fa fine brutta quello che ha rotto la bottiglia lì, vedrai. Ehi già, adesso sì, Adama, asciuga completamente. Adesso c'è ancora quel piccolo buco, non sto camminando ancora, non lo sto appoggiando ancora qua. Comunque sono fasciato, ancora c'ho la gomma a piuma. Sì, vabbè, ma dalla prima foto alla seconda, è un avviso che... Ma questo è un asino proprio. Cioè, quello che avevi prima era un asino proprio. Stavo arrivando all'osso, non ti dico altro, metto che ho rischiato di perdere il piede. E mi sa che si vede pure. Il primo foro mi sa che si vede pure, proprio l'osso della pianta. Cioè, ma questo io non riesco a capire in mano chi siamo. Ehi, senza scherzi, questi qualsiasi cosa vedano sulla pelle, no? Che siano rossori, bollicine, cortisone, la panacea universale, siccome non sanno cos'è, danno cortisone, dice, se è rossore, bollicine, passerà, non è che indagano cosa è, siamo in mano alle capre. A me lo stesso, io sono un bel gonfio, sono anche preoccupato. Sono a pancia, non un pallone, non sto mangiando pane, non sto mangiando niente, no. Sono gonfio al cortisone. No, a me Claudio, questo dottore qua mi ha fatto fare subito la lastra per vedere se aveva attaccato l'osso, perché se aveva attaccato l'osso eravamo al limite. Beh, normale che ti abbia fatto fare una lastra, infatti a me che mi hanno fatto fare il coccolo, il calombro e tutto. Adesso a fine della malattia farò anche un attacco. Beh, tutta completa, capito? Per essere sicuri proprio che non ci sia, perché ho molta dolcezza, sono molto rauco, la mia voce non è più squillante come prima, è un casino. Non mi vergogno a dirlo, ho pianto a singhiozzi quando l'ho visto così, non ci credi, non mi vergogno a dirlo. Pianto a singhiozzi, cazzo, un anno e quattro mesi che l'ho di così. E perché in mano ad una persona che non capiva un accidente? Ci dico cosa mi ha detto il primo medico che mi ha visitato, ma lascia perdere già. Non ce la facevo più, mi stavo avendo l'esaurimento. Poi pian pianino mi hanno indirizzato a una persona un po' più seria, che stava per la Samasia, un Torino che c'era policlinico molto brava, e mi hanno subito incurato, mi ha detto che non preoccuparmi, che non è come hanno detto. Mi ha dato subito la cura, ha passato tutto e poi me l'hanno tolto perché non si poteva toccare. Si poteva toccare, mi stava toccando la trachea perché non parlavo più. Anni a Dio. Fagli causa Gianni, fagli causa e fatti i soldi. Ma sai la cosa che mi dà fastidio, cioè, che a Natale ho regalato anche lo champagne, ma la busi a vatto, 38 euro di champagne. Clarice si è imbriagato e non ha compreso più nulla, aspettate un attimo, c'è un break avanti. Come stai uscendo Mondizzi? Stai uscendo come sempre, Radio 4, segnale però è sempre molto basso, Santiago 7 sei qua, non so se Gianni ti ha sentito, Marco, Mondino d'Alghero già lo senti? Sì, già lo sento, ma basso, ma non lo so, se lui accetta a me. Mondino, mi ascolti? Cappa. Ehi, ringraziamo che non c'è il QRM, che se no guai. Subito attaccando lineare, mi. E gliel'ho visto il segnale, poi è entrato in saturazione, ma l'Alghero già arriva meglio da qua perché siamo troppo vicini. Sì, Mondi è sempre il solito segnale, a volte ti ho ascoltato un po' meglio, a volte ti ascolto così. Comunque segnale 7, la radio è 4, 5 non te la do perché non è molto forte. Mondino, così mi ascolti, guarda, 1, 2, 3, prova. Sì. Santiago 1 arrivami. Se ci fosse il QRM io non ascolterei. No vabbè, io un po' più alto di voi perché su Alghero c'ho più apertura. Cosa hai detto Mondino? Non ho capito, cosa bisogna fare? Stava non scendi più. Mondino, non stai uscendo più di radio, prendo la colpi con l'MC60. Metti sopra dove c'è Kilom, metti a 50. Dove c'è kilowatt, metti a 50. Mondi, di radio non stai uscendo, chi è questa risata da puffo, avanti. E questo è Valerio, mi. Perché non l'ho riconosciuto. Ah, non tocca, c'è, diglielo. Mondino, non tocca, c'è, non tocca, c'è. Non stai uscendo. Cazzo, mi sembri Giuseppe, anche tu. Valerio. Io. Mondino, non stai uscendo di radio, io. Caccia quel microfono e metti in un altro. Ciao, Valerio. Cazzo, sempre con questa antenna frusta nera. Nel davanti alla finestra, col cavo a massa nel rubinetto dell'acqua, che... Dai, fatti sentire, guarda, che siamo qua. Mondino, attento, Mondino dal gay. Oh, minuto dal gay. Aspetta che adesso cambia il microfono, lo fa volare con le M60. Naso, tu, vai già. Ciao Mondino, non so se mi stai ascoltando, perché sono con l'apparato piccolino. Ti ascolta, lui ascolta tutti, c'è una frusta nera attaccata alla finestra e il cavo di massa per fare massa ce l'ha attaccata al rubinetto dell'acqua. Ogni volta per il rubinetto lì si allaga l'antenna. Mondi, Vesa! Adesso ci ha buttato il microfono alla finestra. Porca miseria, vada. Ui. E allora, Marcolino? Sì, più basso di Alghero, Mondino. Ma davvero c'è una frusta nera? Che Valerio gli va bene, Roberto Tex gli va bene, arrivava bene quando entrava 27. E anche qualcun altro arrivava bene, ma Mondino proprio è ai minimi termini, è pressoché zero. Giuseppe arriva più forte. C'è un antennino, cioè, ne ho sfornato un bel Alghero, me. E 3 o 4 mi pare. Anche Sandro Conan è un certo radioamatore, Roberto Tex, poi mi pare ce ne fosse un altro, non lo so, e vabbè, si cresce, basta andare, ma si cresce. Ah, già rientra Mondino, vai, lasciamo spazio già, già torna a braccare, sicuramente sta mettendo a posto il microfono, avanti già. E vabbè. Comunque già si fa sentire lo stesso, dai. Quando non c'è QRM già lo sentiamo. Se c'è QRM non lo sento più, dico la verità, Cattatesa si è scorreggiato, ne ha via. Adesso stai andando bene, Mondi. Stai andando bene, dai, ok. Quei cani sono così già. Pensi che Filippo ne ha dato, non petta. Il fiago che non fatene, mamma mia. Arieggia. Arieggia che schierreggia. Oh, ratapignan, sai cosa vuol dire schierreggia? Scorreggia sarà. Algherese? Vai. Io non sono algherese, non lo so. Ah, schierreggia vuol dire a scivola. Oh. Allora. Oh, vale, ma come bisogna fare per insegnare l'algherese a ratapignare? Almeno una volta mamma ha preso al voce. In algherese. L'alghero mi ha fottigliato, no, quando il pavimento io sono entrato dal mare. Ehi, vedano anche, che schierreggia. Io ho toccato per 4 dni, no, che io ho detto in Sassarese, in Porto Reggio, ho detto 4 dni, no, che trudiavo a mari. Ma cosa stai dicendo? Che scivoli, schierreggia vuol dire scivoli, cattacconteci. Ehi. Un dialetto strano, proprio con termini propri. Ma per esempio pipistrello in Sassarese come si dice? Pipistrello non si chiama. Vabbè, gubinuto, non so. Che ratapignare è proprio particolare. Oi. Ah, io questa lavatrice, che devo stare sempre di sentinella. No, perché cosa c'è? Fa danno, sai? No, perché poi va asciugata dopo, insomma, bisogna fare varie cose che lei non fa. Bisogna lasciarla aperta così asciuga, controllare che non ci siano oggetti dentro, bottoni, monete. Bisogna controllare la gomma, che non ci sia pezzi di carta, ogni tanto qualche scontrino rimane in tasca, insomma piccole cose, dai. E a me, io in 15 giorni, in 20 giorni apro lo scarico, c'è il tappo e tolgo la sporcizia che rimane lì, capito? Non so qual è la tua, l'abbiamo comprata, non siamo venuti qua, c'era 2 anni. Sono da 2 anni, quindi è nuovo, ma c'è ancora in garanzia, tutto elettrodomestici, ho comprato nuovi, lavatrice, frigo, scaldabagno, lavatrice. assomiglia, è tutto, tutto nuovo, capito? Va bene, bello Gianni, va bene, sono contento, dai, così puoi nuovamente parlare. Leia, sai che questa lavatrice è una Rex Electrolux, e il tappo del il filtro, il cosiddetto filtro, quello a reticella, non ce l'ha nello sportellino di sotto, ce l'ha, accedi al filtro tramite il cestello, no? Ha un'apertura, tiri fuori questo filtro che è sotto la vasca, no? Insomma, accedi dal cestello, non dal solito sportellino che c'è sotto, lo sportellino rettangolare, capito? Capito, beh, c'è lo sportellino, proprio c'è un filtro di plastica che lo tira, lo sfiri fuori e lì rimangono tutte le cose attaccate, capito? Rimangono tutte le cose attaccate, quindi quello va pulito spesso perché fa sì che lo scarico sia ben funzionante, se no ti può perdere acqua, può fare casino. Va bene, va bene. Dobbio. Oh, doppio rum, mamma mia, quella è andata a viaggiare la stanza, Per colpa mia. Occhio che se non mi do aria, Hai sentito il cane, si è pettato. Quale cane? Il cane di Gianni. Ah, no, credo fosse riferito a me prima. No, il cane. Anche il mio fa qualche volta. Bisogna. È così. Sì, lo fanno e come, e ringrazia che non è una mucca, le mucche, mamma mia, dice che inquinano, il buco dell'ozono l'hanno fatto loro, lì, da dietro, il metano che producono, ci puoi fare una centrale a metano, lo sai? Non sapevo che i molossi sono molto facili a mollare, capito, e vabbè. Va bene. Vale, al computer sì. Rieccomi. Sì. Allora sono un molosso io. Sì, tu sei un molosso, perché stai sempre scorreggiando. Scappa a te, se ne ho fatto una poco fa, ma crepato. Non fa rumore, ma l'odore. No, allora se fa rumore, non è fa odore, già. Perché anche Filippo è così. Ma se lo fa silenzioso, dappa lì. Io non ho mai sentito facendo rumore, li fa sempre silenziosità, non si sente nulla, si sente solo il nuvolone di odore. No, già lo fai, magari non ci stato attento. Nel silenzio, io vado a dormire nel salone, è tutto spento, mi intendo. Ah, salute, le dico. Sì. Quando li fa sono molto durusi pure. Marco, io ho trovato una cosa che fa per te. E dimmi. Ho trovato il diario dell'amore. Il diario dell'amore? Ma in cosa consiste? Ti spiega, cioè il vocabolario, scusa, non il diario, il vocabolario dell'amore. Ti spiega tutte le parole, le posizioni, tutto qua. So già tutto, avevo avuto, tanti anni fa avevo preso anche un libro che parlava di sesso, che spiegava certe cose in minimi dettagli, vabbè, ma già fatto. E io avevo preso quell'enciclopedia Armonia, non so se te la ricordi. No, ogni tanto si vedono cose di Kama Sutra, le immagini giapponesi, no, ma lì è un casino, devi essere Yuri Keiki per fare quelle posizioni là, dai, sono innaturali. Un ragno. Sì, devi fare cose assurde, cioè quello è, a me piace molto il missionario, molto, la spinta pelvica è maggiore, volete più dettagli? Vabbè, non scendiamo in particolari. Avanti, Claudio. A me qualsiasi posizione mi va bene. Pure non vado da muro. Che passa che non siamo con l'albero. Avanti, Claudio, si è scandalizzato. No, ti ha detto muro a non vado all'albero. No, io sono. Vabbè. No, questo qui è un vocabolario dove ti spiega tutto, le parole, capito, che tu non sai, cose. questo le spiega proprio il significato. Tutta roba sessuale però, capito? Allora capiamo, bisogna mandarlo. Io ero intitolato, stiamo parlando del 90 dintorni, tutto quello che... Aspetta, com'era? Tutto quello che volete sapere sul sesso e non avete mai usato chiedere. Poi mi è stato asportato da qualcuno, capito? Prestato, addio, sparito. Aspetta, devo mangiare a Filippo. Adesso qualcuno che ti ha asportato l'altra roba. Aspetta, devo mangiare a Filippo già. Ehi. No, no, l'ho prestato. Un ex CB se l'è fatto fregare in caserma, capito? Vabbè, tanto una volta letto te lo puoi anche vendere, lo puoi anche buttare. Eh no, se c'è qualche dubbio vai a riguardare. ma vabbè, ha suonato oggi, era in moto, bibi, ciao ciao, avviati. Gappa gappa. Pippo. Che cazzo fai? Vabbè, lui. E anche lì stessa cosa, prestate videocassette, un film, sparite, prestate libri, sparite. Non bisogna prestare niente, bisogna fare i bastardi, come qualcuno che conosco, ex amici da. Erano due fratelli, uno era proprio me, non ti prestava nulla. Se te lo dava, guarda, non ci dormiva la notte. Io, vabbè, poi glielo restituivo, però non dava nulla, Era proprio... Tanto mi la roba, una volta che la dai, non torna mai. O torna rovinata. Io lo so perché ero anche troppo generoso in passato, capito? Dischi rock rari, no, di quella musica metallara, tutto sparito, così sono quegli infami di sinistra, quei pezzenti di sinistra sono così, una volta li dai la roba non te la tornano più. E cosa c'è da sinistra o destra? Sono pezzenti bu, e cosa c'è da sinistra o destra? Praticamente sono persone poco serie, tutto lì. Vabbè, ma... Se presidente di sinistra era, capito? Sempre a scrocco. Quelli di destra non erano così, almeno i pochi che ho conosciuto di destroidi non erano così. Anzi, erano molto discreti nel chiedere, invece caso qualcuno arrivava con la lista. Mi devi pensare questo, anche sfacciati, no? Sfacciati proprio, ma... Sì, perché quelli di destra sono tutti figli di papà, hanno bisogno di chiedere. Se se la comprano una roba e buh. Quelli di sinistra magari te la chiedono perché non hanno i soldi per farlo. Sono figli di proletari, di operari, non lo so, io la vedo così. Comunque in ogni caso sono di sinistra e non ho mai bruciato niente a nessuno. Eia. Io... Il mio pensiero era più vicino ai radicali, quando esistevano i radicali. Diciamo che sono per il sociale, sono di sinistra, per quanto riguarda il sociale, aiutare chi deve essere aiutato, però per l'ordine pubblico sono più di destra, tipo quelli che spaccano le fioriere, che pasticciano i muri, che fanno danno alle macchine, capito? Lì sarei più per castagnare di brutto. Ma io ho sempre frequentato in piazza ambiti di sinistra, roba del genere, però ho sempre trovato gente molto in gamba, alla mano, molto cordiali, donne a gogo e via. Eia, cos'è questo odore? Ha acceso il camino quello di sotto, sento odore di legno bruciato. All'inizio fa un po' di fumo, poi il fumo sparisce. Eia. Anche l'istituto d'arte, no? C'era il gruppetto metallari, punk, tutti sinistroidi, no? Sempre che vanno a contestare tutto, sei contestatori di tutto, no? Non gli va bene niente. Un giorno mi avevano detto anche a scuola, noi ci conosciamo tutti, come dire, vieni, e io, ciao ciao, buon viaggio. Non ero troppo frequentatore di... manifestanti, no, che ce l'hanno contro tutto, come questi da adesso, no TAV, no Expo, no tutto, sono contrari a tutto, contestano qualsiasi cosa, non so cosa cazzo vogliono questi di sinistra, lo sai, ce l'hanno con tutto, se fosse per loro torneremo nel Medioevo. Sì, vabbè, la sinistra adesso è tutta un'altra cosa da quella che c'era prima, non lo puoi paragonare, la sinistra che c'era prima era lotta operaia, si appoggiavano gli operai della SIL che venivano a fare le manifestazioni perché non li pagavano, eccetera, eccetera, chi era in cassa integrazione, chi era qua, chi era là, non era come adesso, adesso è tutta una cosa, non si comprende più nulla, a sinistra, non se ne capisce più nulla, Marco, sono tutti uniti dalla droga e dalle dinamiche. Guarda, la vera sinistra era quella di Berlinguer, anni 70, Berlinguer che era con le palle, non queste sinistrucole di adesso, come la destra vera era quella di Almirante, no Casa Pound, questi movimenti, prima era MSI, Movimento Sociale Italiano. Quella era la destra, adesso sono sinistrucole e destrucole, poi questi partiti di mezzo, 5 Stelle, Grillini, qua fare tutto un fascio di quelli, mettere in fuoco al Parlamento, cazzo, un missile ci vorrebbe sopra. E vabbè, comunque io 5 Stelle, tante cose buone le ha fatte, dai, non possiamo dire che non è un movimento che si danno da fare, però è una cosa diversa, non è più come prima si lottava per certe cose, per certi ideali, adesso si fa tutto per soldi, tutto per dinamica, non è più come prima. La politica comunque non si può parlare al baracchino, avanti claro. Ho visto, vabbè, basta non interferire in cose che non ci interessano, però ho visto il sindaco di Parottolo, cioè che sta lavorando bene, mi ha detto mio fratello. Ma sai cosa ha fatto ieri? In piazza, di fronte al comune, ha fatto arrivare il camion della Mondezza con le cose e hanno aperto le buste per vedere se facevano. Lui per primo si è messo una tuta di quelle bianche che usano anche per tagliare l'erba, se le prese, e ha aperto i pacchi e si è accorto che c'era più plastica nell'indifferenziato che indifferenziato. Tu mi sciappari, porco. Sgamati, sì, ma dice sta lavorando bene, nel senso che è molto presente, molto attivo in tutto, puoi andare a parlarci tranquillamente, cosa che devo criticare molto mio cugino Beniamino, perché si è proprio rovinato con la politica, doveva rimanere a fare l'avvocato, perché ha preso tanti di quei colpi che non viene bene a dirlo. Però a differenza o Marco di altri, questi 5 Stelle hanno le idee molto chiare. Lascia perdere che lì dei 5 Stelle era un comico e continua a fare il comico nonostante sia un politico di prima linea, perché è così, però rimane sempre un comico, perché a me quando parla mi fa solo ridere e basta. Ti dirò che era un pessimo comico, perché se vedi i film suoi erano delle cagate che non viene bene a dirlo, tipo Topo, aspetta com'era, Topo ha fatto un film che più brutto non poteva essere, era proprio una cosa, pessimo comico, io lo vedo anche come pessimo politico, poi non lo so, abbaia, però forse i suoi accoliti sono migliori di lui, quelli del suo partito sono migliori di lui. È un po' estremista, cioè quando c'è qualcuno nel gruppo che non gli piace, via, lo caccia via, capito? Molto democratico è all'interno del suo gruppo. E beh, lui leader, lui ha formato il partito, quindi è lui che comanda. Nonostante continui a dire, però io non lo seguo, nonostante continui a dire, quelle poche volte che l'ho visto, che il partito deve funzionare con la linea giusta, quindi combattimento, combattere tutte le cose che non vanno bene. Non so, io non è che non seguo molto queste cose, me ne fotte nulla, io vivo e lavoro per la mia famiglia, poi per il resto si arrangiano, si picchino, facciano quello che vogliono. Me ne fotte nulla di nessuno. E cosa stavo dicendo, sì, già l'ho sentito la TV, l'ho visto la TV, ma no, Vigliolina hanno fatto vedere, Rai 3 sa bene, TV3 sa bene a che punto in piazza ha fatto questa manifestazione, ma a prescindere, è presente un po' da tutte le parti al proprio Torres. Ma se tu lo vedi a Polonese va in bicicletta in giro, sembra una persona tranquilla, non un sindaco, una persona normale, sembra prendere la bicicletta e va in bicicletta in giro. Sì, l'unica cosa che non mi piace, con tutto rispetto per chiunque, per carità, è la presentazione che ha. Non mi ricordo quando è stato candidato a sindaco, alla vita elezioni, cazzo, c'era il codino, due orecchine grandi che sembrava una donna, non era molto bello da vedere, è sempre una figura politica, il primo cittadino deve essere un po' più presentabile, lui come faccia sicuramente non è molto presentabile, poi come persona sarà tutt'altra cosa, ma fisicamente non è molto presentabile. Beh, ha dato la sempre essere anche a me, infatti gli ho detto a mia moglie, questo mi sembra un hippie, non un sindaco, però magari è il modo di vedere che ha giovanile, capito? È giovane, non è, ha voglia di fare perché è giovane, è il modo di vestire, di fare, è sempre una persona giovane, non è grave di età, dai. Già, ti capisco perfettamente, fatto detto, per carità, senza peccare per nessuno, ma dico sì, una figura politica, una figura che appare in televisione, una figura che deve avere una presentazione un po' più equa, perché le chine te le togli, te le metti quando sei per i fatti tuoi, capelli per i tagli invece di avere questo codino che non si usa più. Lo so, ma lui potrebbe dirti, questo sono io, sono me stesso, questa è la mia figura, ma non è tante volte l'abito, non fa il monaco Claudio. Una volta vedi, per dire, le persone che hanno orecchini, tatuaggi e cose, poi dentro sono buonissime, sembrano persone addirittura di chi si casa anziti con i tatuaggi, poi se tu le parli le fai, sono persone doc proprio, dipende, tante volte l'abito non fa il monaco, è il modo di vedere, di esprimersi, a volte il fatto di farsi tatuaggi è gente che non riesce a esprimersi, quello che vorrebbe dire non riesce a dirlo e allora lo esprime con i tatuaggi, capito? Per dire, ama una ragazza, si fa dei rugori trafitto, perché non riesce a dirgli una cosa, però lo sente, se lo fa, ha sentimenti magari verso una persona, lo stesso, e fa cosa ti fa la sirenetta, fa queste cose qui, cioè ce n'è tanta di gente che si fa i tatuaggi proprio per esprimersi, capito? Tatuaggi già ce li ho anche io, non è quello il problema. Io l'altro giorno, in riferimento a questo discorso, ho fatto una gaffa micidiale con una infermiera lì proprio al policlinico. Passato, io stavo aspettando il mio turno, è passato questo ragazzo, vabbè, aveva il camice bianco, però aveva il camice un po' piegato e nel collo c'aveva un tatuaggio, nelle braccia era tutto pieno di tatuaggi e poi era tutto pieno di bindarizzoni, quei braccialetti, insomma da hippie che si usano, e un orecchino piccolino ma ce l'aveva. Ha detto, allora sta l'infermiera che si ce l'ha con l'infermiera proprio, un'infermiera professionale, ma no, quello è un medico, una razza di cosa che... Roba di busso. Noi abbiamo studiato per queste cose, lo sai, abbiamo fatto dei corsi. Tante volte tu entri in una casa, no, vedi una fotografia, che bella quella ragazza, che è sua figlia, è la mia figlia, è morta, capito? Per non fare queste gaffe, meglio che tu le pensi le cose e non le dici. Sì, ma guarda, è imbecille perché, insomma, l'infermiera con camice bianco non funziona così, cioè non di per sé, anche con l'infermiera che c'era aveva un altro tipo di abbigliamento, quindi insomma, c'era il camice bianco, il cartellino attaccato, io sono come tu Gico, ma io dico non ti passa davanti, ho espresso questo mio, ma non l'ho detto a voce alta. E l'infermiera che era a fianco a me, che stava, c'era tutta la cartella per... Stavo entrando dal dottorino, mi stava accompagnando lì, ho detto no, quello è un medico, è bravo pure, mi ha detto anche il nome, non me lo ricordo, ed è anche bravo, ha detto, siamo a posto, allora, la frutta, ha fatto una risata, però è stato un medico per dirti, un orecchinetto piccolino, un bernardino, i fibrillarizzoni attaccati allo braccio, si vedevano i tatuaggi, uno se ne vedeva nel collo perché c'era una camicia, insomma, tappa di nonna. Non piacciono manco a me così tanti, è la verità, io ce l'ho uno. Sai quante volte sono passato da Manolo a Porto Torres prima di farmelo? Ci pensavo, poi voi andavo dritto, passavo, voi andavo dritto, io sono entrato, ho chiesto, mi ha detto quanto costava, mi ha detto se potevo fare il disegno, gli ho preparato il disegno, il giorno dopo sono tornato, gli ho fatto vedere il disegno e mi ha detto vabbè lo aggiustiamo un po', attorno rifacciamo il mare con gli schizzi, ho fatto un delfino giocando con una palla, i colori, rimettiamo questi colori qua, mi ha detto, e va bene, no, è molto bello, mi ha detto, è originale. Che cos'è la figura? Gli ho detto, una persona brava a giocherellona, come sono io. A me mi piace molto giocare, scherzare e fare. E lui mi ha detto, ci ho pensato molte volte prima di farlo, perché a me uno va bene, ma farne tanti non mi piacciono. Dice, allora io ti faccio schifo, segna figura. E beh, quelli fuori i tatuaggi li hanno beh, lo so anche Manolo li hanno beh, io l'ho fatto lì, mia figlia mi ha fatto uno da poco a fine estate, capito, non è calata un po' la prolungatura e vedete tutti quanti era il peso, però piaceva, ne ha già quattro mi pare, ne ha già quattro, guarda, sono già tanti. Vabbè, io ne ho due, uno un braccio e uno all'altro, però in alto, dove a maniche corte non mi si vedono, capito? E va bene, però non ne faccio altri. Uno è il mio segnato di chiave e poi un altro, una figura un po' particolare. Va bene, e tu, sono i gubi nudo, vuoi darti fare il pipistrello? Perché non te lo fai nel petto il pipistrello? Io mi voglio tatuare a Tyson. Anche stavo pensando, la faccia di Filippo, però la faccia solo, non tutto, solo la faccia del mondo inglese, no? Tanto questa, mamma mia, l'ho messo quasi 300 euro vuole Manola per farmi la faccia di Filippo, ma te lascia perdere, non mi butto subito. Oh pipistrello, perché non te lo fai il tatuaggio? La mamma mi ha preso 85 euro per il delfino. Un piccolino. Non è piccolino, piccolino, è medio. E a me mi aveva preso 80 euro per il segno zodiacale. Nell'altro lo stesso 90, quello che c'ho, ma quello d'aria è la coscia, è grande, del tatuaggio. Da tutti quanti io. E ci lavora la figlia mio fratello con Manola, Federica. Io praticamente me l'ho fatto quando ancora erano via Principe di Piemonte. Adesso non so manco dove sia Manola, mi sa che dove c'è la gelateria Capriccio lì vicino. Eia, lì ci lavora Federica, figlia mio fratello. Cavaga. Probabilmente la conosco Federica, perché se quella che c'era prima la conosco. Manola è brava, ha imparato a Sassari Manola a fare i tatuaggi, era da tattoo mi pare. Idea porcellana era da tattoo. Comunque adesso è diventata brava, solo che il problema è che i colori che mi ha messo mi ha detto che stavo usando dei colori naturali, di piante, di fiori, roba del genere, perché aveva riscontrato che mettendo l'inchiostro aveva fatto venire praticamente due o tre persone, sono andate a lamentarsi che gli era andato in infezione il tatuaggio, e quindi ha detto non li ho più usati proprio gli inchiostri, ho usato degli inchiostri particolari fatti da piante, da fiori eccetera eccetera. No, non sapevo, molto brava, mia figlia si conosce, non ho molto d'accordo. Però bisogna sempre stare attenti a queste cose, il tatuaggio è una cosa, già lo sai come funziona, bisogna stare sempre molto attenti. Io ho tenuto coperto con le creme e tutto, ci siamo fatto mano, ho detto loro, e poi pian pianino seguivo quello che mi dicevano, non l'ho capito. Con Marco. Ma tu l'hai fatti da poco? Uno da poco, uno l'ho fatto insieme a mia figlia, fine estate. L'altro ce l'ho, quando ho fatto 50 anni, 8 o 7 anni ce l'ho già. Io viaggio la vita, questo qua ce l'avrò sull'acqua in vicino ad altro. No, io l'ho fatto a 50 anni, al braccio destro, capito? Dicevo che avevo 7 anni. E l'altro invece l'ho fatto fine ottobre. Ottobre, primi novembre abbiamo fatto. Solitamente sono molto belli quelli dei figli, della moglie non ne farei mai, perché poi ti separi o ti lasci e cose, non ne farei mai, ma i figli rimangono sempre. Fare un carteggio con tutti e due i figli, capito? Ci ho pensato quello. L'iniziale c'è, infatti io l'iniziale fatto molto bene di mia figlia e lei c'ha le mie, capito? Lei c'ha il mio e io c'ho su, basta, poi non ne faccio altro, ti ripeto, perché c'è una cosa troppo molto, non mi piace, anche perché poi non si possono più togliere le brutto. Ma Marco, che abbiamo fatto? Mangiamo. No, no, sono qua, stiamo ascoltando. Ehi, cosa mi dà tu, io, il pipistrello? È l'unica cosa, magari stilizzato, stilizzato stile il pipistrello della Bacardi. No, no, io non ne ho, non mi piace, perché poi è una cosa che è una macchia che ha sulla pelle che non va più via. Non mi piace, non è per me il tatuaggio. Non mi comunica niente, non lo so, alla fine. Boh, non mi piace, non mi piace. Posso capire un marinaio che si fa il cuore trafitto sul braccio, tipo braccio di ferro, no? Una sirena, è carino, ma no. Io non sono marinaio né niente, non me ne faccio. È una cosa che non se ne va più e non la sopporterei. Non c'entra nulla quello, Marco. Uno può anche imprimersi uno stato d'animo di quel momento, magari si sente libero perché si è mollato con la ragazza, con la moglie, e si fa, cosa ti posso dire, si fa un uccello che vola, ecco. E per esprimere il tuo stato d'animo in quel momento lì, capito? Già, un mio collega, dipendente della casa madre, no? Iappa. Allora cosa ci ha fatto il braccio nel letto, mi parlo sinistro, ma un catarroeva, un secchio con l'acqua che sta praticamente traboccando dal secchio, e sotto c'è scritto la sigla dell'azienda, esaurito. Ah, Lecchino questo qua. No, è Marco Brucchio, non Lecchino, è Marco Brucchio. Ehi, quando vado in pensione così mi rimane un segno. Ma non ti impicchi, Giulietto, vai e impiccati. Ma l'acqua l'ha fatta messa marrone, sì, spero. No, bella celestina l'acqua che sta traboccando. Ha detto manco vero, eh. Aveva un tatuaggio falso. Ma l'acqua di Abanoa non è celestina, è marrone, vero, va? Sì. Certe volte c'è marrone, figurati com'è la fonte lì in quegli impianti. E via, no, già, io se devo esprimere lo stato d'animo lo esprimo in prima persona, non con i tatuaggi, no? Non è per me, io mi nonno, già lo sai, vecchia guardia, niente tatuaggi, niente orecchini, niente piercing, niente di niente. E vabbè, la normalità è quella lì, va. Bisogna essere un po' anche fuori dal normale. E a me, guarda, uno mi è piaciuto farlo, è stato in un momento che l'ho voluto fare e l'ho fatto. E ne dovrei fare anche un altro, ma ci sto pensando, sono troppo grande per andare a farmi il tatuaggio, mi vergogno. Tanto male fa già, fa un bel male. No, a me non mi ha fatto nulla Manola, proprio nulla. Sai quando mi ha fatto male? Quando mi ha ricalcato i colori che mi si erano scoloriti, me li ha ricalcati, lì mi ha fatto un bel male. E poi me ne sono di nuovo usciti, perché sto usando questi colori, capito, non è inchiostro. Adesso non lo so come sia, però mi ha detto che erano colori naturali, che era per evitare, perché c'è molta gente che è allergica all'inchiostro e stavo usando quei colori lì. Però ti decidi subito. No, non ce l'ha fatto, non so il culo, sono abbastanza bene. Vabbè, e comunque fa male, mi ha fatto un bel male. La seconda volta, la prima volta mi ha fatto male. Vabbè, vediamo un po' più, c'è bello. Valerio, ci sei? Valerio, te lo faccio un tatuaggio, Valerio. Disegno Giuseppe nel braccio sinistro. Eh beh, se io ti faccio la faccia di Giuseppe non va bene. Allora ti disegno una rata pignale, così sei tranquillo, dormi sogni tranquilli, e prendi la notte per il giorno per la notte, capito? Il pranzo per la cena per il pranzo, insomma sì, tutto al contrario. Esagerato. No, a me non mi ha fatto male, dico la verità. Allora non mi ha fatto male. Mi ha fatto male quando mi ha ripassato i colori e poi si sono scoloriti nuovamente. Ma vabbè, comunque, non li rimetto più i colori, lo lascio così. Tu colorati ce li hai, Claudio. Claudio. No, c'era Filippo, stavo. Dimmi già. Ho detto se ce li hai colorati o solo blu. No, mia figlia c'è colorati, io ce l'ho tutte e due blu. Ah, no, io ce li ho colorati, la palla del delfino è verde e rossa, prima era giallo e rossa, il giallo ha perso il colore, quindi me l'ha fatta verde e rossa. Poi il delfino è colorato e la pancia era bianca, ha perso tutto il colore. C'era la pancia bianca e il delfino era nero, però i colori con gli anni sono svaniti. È rimasto solo, diciamo, il contorno. No, io non volevo definire anche il colore. Lui, la sapete. No, i miei sono praticamente uguali, i due, stesso colore. Quella mia figlia faceva un lavoro particolare, quindi è tutto colorato. Va bene. Andiamo, Marco, aiuto, ti racconta già. Ehi, i tatuaggi decenni fa, decenni, si usavano per distinguersi dagli altri. Ormai li fanno tutti. Alla fine se tutti sono tatuati o per distinguermi non faccio tatuaggi. Poi non ho mai seguito le mode, cioè tutti li fanno perché è una moda, no? Io le mode non le ho mai seguite. Non mi piace né orecchini né piercing, nulla. Sono all'antica. L'unica cosa mi potrei tatuare? Il Superstar 3009 mi faccio tatuare sul braccio, capito? Visto il tanto amore per quel baracchino. Io mi tatuo a Tyson, ci scrivo Tyson sotto e faccio la faccia di Tyson. Ma vi domando, ma non a quanto mi prende. Avete dato un'idea. Farò gelosa mia moglie perché tu devi tatuare i tuoi figli, non il cane. E diciamo la faccia ti fai fare, sotto ci scrivi il nome del cane. Non è costoso, io gli avevo già chiesto ed era più o meno lo stesso prezzo, 80-90 euro. Vabbè. Mi porto una di quelle fotografie di lusso, quelle belle, proprio dove si vede bene. Se non li porto quella vestita da Babbo Natale, tu non l'hai vista. Io una che vestita da Babbo Natale. Oh già, ma lasciare le schifezze che facevo da piccolo. Chi? Io. Allora, quando su qualche giornale, qualche rivista vedevo una foto bella, ero piccolo, avevo avuto 11 anni, mi bagnavo tipo il braccio con un solvente, che poteva essere trilina, acetone, quello che trovavo. Poi mi attaccavo la pagina, proprio la figura sul braccio, no? Aspettavo pochi secondi. Quindi il solvente scioglieva un po' l'inchiostro della pagina e un po' trasferiva l'immagine sul braccio. Ma quella era tutta roba tossica che fa male, già l'acetone, poi gli inchiostri nel giornale e facevo cose del genere, capito? Però poi da grande di tatuaggi non. Un'estate abbiamo fatto i gaggi con Ivan, me. Abbiamo fatto i gaggi, siamo pigliati quei tatuaggi dell'edicola, me, che li attacchi con l'acqua sul braccio. Lui si era fatto il gecko, io mi ero fatto un'altra cosa che non mi ricordo. E duravano 2 o 3 giorni. Ma tatuaggi veri no. Io non voglio nulla di indelebile. No, mica ci mandato la faccia dei lucani di Mario. A me, e dopo la guardo, che ce l'ho là. al limite guarda già, hai visto che quelli indù fanno i tatuaggi all'ennè, in estate fanno i tatuaggi con l'ennè, che è quel liquido nero, no? Che poi sbiadisce nel giro di qualche settimana, quello potrei capirlo, capito? Purché sia temporaneo, non definitivo. La faccia del presa canario, gli ho mandato a Gianni, su questione. Guarda che bello, che okay. Bello. E lo sai che per farsi il tatuaggio di questo cane ci vuole, cazzo, lo deve fare la pancia minima, per starci, cazzo, di a capo. Le ho detto a Mario, mandamelo con te a guinzaglio fermo, peraltro, lo mando ai miei amici che vogliono vedere l'altezza del cane, la paura. Ancora non me l'ha mandato, la prima ha mandato la faccia. È allucinante, faccio, un demonio, un cavallo, ogni avvaccia, ma tu devi vedere in piedi, ma l'altezza che c'ha quel cane è la robustezza che c'ha quel cane, ma è bravo, veramente molto molto bravo, è più tranquillo di Filippo, se tu lo lasci tranquillo, se però, non, ma i cani restano un bel lontano, lui lo porta senza guinzaglio. Senza guinzaglio stai fermo a fianco a me, le passioni che hai davanti, lui fa finta di niente. Proprio lo ignorano i cani perché lo conoscono lì alla Terroccia, una cosa allucinante. Ma è un bel cane, cazzo, a parte tutto è anche bello. È un bel cane veramente. È che non lo vedo tutto quanto, ma dal viso si vede che è un bel cane. Chissà cosa tutto si mangia ai suoi cani. Mi ha mai fa ridere, no? Perché a volte lo porta lui a Filippo, no? Lo molla e lo vede che è sporca, no? Dopo Filippito, io mi subito pure, ci vede aiuta, ne fate un cazzaro, ma te l'ha detto. Gesù Cristo, basta che si immagina. Cosa ti dà, roba umida o roba secca? Mangia sia l'umido molto bene, un bel di carne, mangia giuro, ma un bel di carne, il cavallo che lui ce l'ha gratis, c'ha questo amico lì, e sempre maniere di il cavallo, c'ha un pelo, quel cane, hai visto il muso, lucido, ma lucido è una cosa pazzesca, bellissimo quel cane, non ce n'è manco uno che comincia a essere di quel cane, bellissimo. E poi due volte a settimana mangia il secco, le crocchette uguali a quelle che c'ho io, uguali, precise identiche, però lui gli darà solo di carne, pesce non gli piace. Invece bisogna, io gli do troppa carne, quindi gli devo dare il pesce per forza. No, io faccio la mattina, per dire, le do carne di cavallo, e la sera gli do fetto di pollo, sempre insieme alla pasta, alla verdura, eccetera, eccetera. E poi gli metto un pugno di crocchette sopra. Adesso sta mangiando molto poco, un pasto gli sta facendo mattina e sera. E secondo me è perché ci sono cani in calore, quando scende giù, cazzannusa, burrende, brumittia, sempre rusando, pisciando da una parte all'altra, lasciando le tracce, ci sono cani in calore secondo me, perché a volte sta sempre sempre così, quando fa così è perché ci sono cani in calore. Poi, io se vedo una cagna si masturba subito all'Ande Caraibi, ta ta ta ta ta ta. Ma cosa io? No! Già, se vedi a Filippo ti metti a ridere. Ti metti a ridere là che non te ne scende. Si piega con le gambe di dietro, tum, tum, tum. Come che stia trombando, uguale, tum, tum, tum, tum, ci masturba da sopra. Non è possibile. Via. Eppure abbiamo voluto dire. Avanti, Marco. Vabbè, poveretto, cosa deve fare? Finché non lo fate sfogare, come fa quel povero cane? Capito, anche lui ha diritto a divertirsi. Marco, c'è un concorrente. No, lascialo stare, Filippo, io voglio che vieni a nonno, tu piccolo, vieni, eccolo qua, vieni. Oh, ciao. E lui, vedi, perché ti hai messo il battere pazzo tu? Chissà covetta che va già, ti, che sempre il movimento della gola pare un sciurico che... Via, che cosa bella. Tu dovevo uscire a comprare un po' di carne, che se non è giugana, devo andare a prendere Anita, a prendere un po' di carne. Ho comprato il fegato, claro, l'altro giorno, il sangue è uscito da quanto era bello, è buono, me l'ho fatto tagliare grosso, solo per me. Ma buono veramente. Già, io l'ho preso lo stesso grosso, però l'ho fatto l'ho tutto tagliuzzato, messo nel tagame. Capito? Mangiato così a tipo spezzatino. Buono, buono, sì, me l'ho fatto prendere anch'io, però era con la retina, no? Con la retina un pezzo bello grosso. Infatti gli ho lasciato un pezzettino, l'ho dato a Filippo, che le fa bene. Ok, ok, ok. Vabbè, ma lì, non dino che fine ha fatto. Ma lì di aver impegnato il computer. Che ne so, sugar, 17 meno 5 sono già. Giù, giù, ma lo giamba l'orario. Comunque. Oh, yeah, yeah. Io a lui non gli posso mancare nulla, la verità, mangia di tutto, zucchine, carote, ogni giorno gli metto le zucchine e le carote in mezzo, solo che è un periodo che mi sta mangiando male, prima Marco già l'ha visto, la ciotola piena in 5 secondi se l'ha svoltato, adesso sta mangiando meno male, si mangia mezza ciotola di roba, si mangia solo la carne e il resto lo lascio, e adesso sto facendo così. Non glielo butto, prima glielo buttavo via e la facevo nuovo. Adesso non glielo butto, li faccio solo la carne, la sera glielo misco con quello che c'era dalla mattina se lo posso mangiare. No, non devi mettere altro carne. Se l'ha mangiata a pranzo, le fai mangiare la verdura la sera. Capito? Non si impara. No, Filippo. Filippo la saluta. Non c'è niente, pezzi di pane li metti nella ciotola. L'altro giorno aveva fatto un pezzo di pane di due, no, daglielo fuori che qui ce lo rosicchi, aprire, no, non glielo fuori. No, no, glielo ho tutto sbriciolato, ho messo la ciotola, ho messo un pochettino di acqua, glielo ho tutto girato, bene, ho messo un cucchiaino di formaggio, un goccettino di olio, e era contento. Anche io prima ne facevo, li mettevo anche io il pane duro, fatto zuppato, lo mettevo in mezzo, però molte volte lo lasciavo. Mi piace di più arrosicchiarlo, lo rosicchia e però fa un casino in casa, lo briciolo e cose lo fa. Infatti io ho il poggiolo, ma mi va un po' di pulizia, allora lo sbriciotto e messo la ciotola lassù. Ma sai, abbiamo visto già lì al coso, al Polo Nord, là lì dove c'era passo già il merluzzo, bello, era costava anche poco, grande, tagliato a pezzi, quelli sono buoni, mi ha detto il veterinario, fatti prima scongelare oppure bolliti direttamente congelati, perché è congelato fresco, tolto quello di mezzo e messo assieme alla pasta e c'era micidiale. Ma attesa non li mangia di pesce, prima glielo davo il merluzzo fresco. Come arrivava glielo compravo, bravo. Lo facevo mettere a parte al pesce verde, ma ieri ho comprato i pulpi da noi, vivi, ti toccava e si muoveva. Ne ho comprato 2 kg, quando sono arrivati da casa subito me li ho fatti pulire, li ho messi dentro la pressione e via, fatta l'insalata, tutto canto, l'ho messo in frigo, non li ho mangiato a pranzo, l'ho aspettato la sera a mangiarli per pulirsi, ho messo aglio, prezzemolo, il peperoncino, poi roba di maniera, c'era una dieta mania boito. Proprio ne voglio anch'io già. Lo voglio anch'io, però dobbiamo andare, cazzo, dobbiamo uscire, porca miseria, dobbiamo uscire già, dobbiamo uscire, adesso che tu la sera non lavori, dobbiamo uscire, dobbiamo andare a farci una mangiata di calamari fritti, vedi, polpettini, tagliate, queste cose, possiamo andare anche lì, quelle trattorie, a giocarci, andare a mangiare queste cose, porca miseria, non tornavo da nessuna parte, adesso sabato siamo andati a mia figlia, ma sempre la stessa cosa, infatti mia figlia ha detto, andate bene a mangiare un po' di pesce, perché nel pesce non ne abbiamo, non a giocare, non ne voglio proprio di uscire. Qua io quando è sabato ho accompagnato Marco con un suo amico e li ho portati a Predarina da Cocco, come cazzo si chiama, a fianco Aldo, quello ristorante che c'è, che fa sushi eccetera eccetera, e aspettati fuori perché non devo stare alla turra. Mi ho portato a Tyson mentre loro stavano mangiando, io sono andato a passeggiare con Tyson, gli ho fatto fare i bisogni così poi non l'ho dovuto portare. E niente, e ha detto che hanno mangiato bene, hanno pagato 17 euro a testa, hanno mangiato sushi, non so cosa tutto ha rimaniato, di tanti tipi, col salmone, qualcosa. Io, vabbè, la cosa cruda a me non è che mi piace assai, e sushi io l'ho preso una volta a Città Mercato da quella cinese che c'è dentro, no, c'è una cinese che fa il sushi, non so se l'hai mai vista, l'ho preso ma mi stava venendo la nausea. Quella di mia moglie viene la nausea, sono dei pazzi, costano barca di soldi, la torna sono fatto portare a casa a 22 euro, ma non te nate 22 euro, piglio due bici giganti, ma non te ne fai, non c'è niente da mangiare, io mi tengo cura a fame, ma te pare devo mangiare quella cosa che mangiano gli squivici, ma non te nate, assolutamente. Riprendi Marco, riprendi, ci arrivo subito, Marco, Marco, riprendi. Sto mangiando, non posso. Ma questi sono giapponesi, capito? Questi dove l'ho accompagnato a Marco, Cocco come ti che si chiama. Sono giapponesi. Bello il ristorante, bellissimo, composto macchina, tutto quanto, c'è il parcheggio giù. È un bel ristorante. Si paga poco, con 17 euro hanno mangiato tranquilli, e ha detto che era anche buona la roba, l'hanno preso al salmone, e dipende anche come lo prendi il sushi, c'è il salmone che è buono. Eia, io sarei come te, pesce crudo, mamma mia, pesce crudo, bucci. Io, no, io ho provato a gustarlo, mi ha convinto Marco che era buono, a Marco piace molto, che era buono, siccome abbiamo preso gli stessi gusti con mio figlio, ho detto, aspetta papà, lo prova. Abbiamo comprato Marco, come me l'ho messo in bocca mi stava venendo a vomitare, la nausea. E io sarei lo stesso, no, io di crudo non mangio nulla. Vedi, il fegato, per dire, io lo faccio scaldare da una parte e dall'altra, è un po' crudo all'interno, no? È buono così da mangiare quando è fresco, però è l'unica cosa che mangio poco cotta, e poi tutto il resto è la carne di cavallo, faccio così. Oh, basta. Mi capisce della roba, mamma mia. Sì, quello sì, mi sta bloccando il pollo qua. Che palle quando succede. Sì, ma no, pesce crudo no. Ho visto, sì, c'è una donna e un uomo che fanno quella roba giapponese. Però io potrei mangiare roba cotta, però per esempio il cibo cinese era sempre cotto, ed era buono, però cotto, cacchio. Ma io sono andato dai cinesi, quelli mi hanno convinto perché siamo andati tutti in greffa e cose, per non distaccarmi dagli altri, ho fatto così, sono andato e mi hanno convinto, ma non ero molto convinto, non c'ero mai andato proprio perché non mi ispirava. E ho mangiato i volti di primavera, poi come si chiamano, le palme, quelle interne, quelle fresche, là, diciamo i germogli delle palme, quelli lì, poi il gelato fritto, pollo con le mandorle. Beh, Marco, sono tornato a casa a Cusi di brutto, sono stato 3 giorni a Cusi. Oh, è pure cibo normale quello, aspetta che, ecco. Io mangiavo, che ne so, pollo al bambù, non so cosa c'era, spaghetti di soia con verdure e carne, sai, che sono cose anche normali. Aspetta che spengo qua. Capito, quelle cose lì, i voli di primavera molto buoni. Sempre roba ben cotta però, E' tutto buono, la verità. Avrei voluto mangiare molta più roba, però poi non mi bastavano i soldi, sai. E detto, ha fatto accusi, così è. O sono io uno struzzo che mangia di tutto. Allora, se vuoi mangiare con 17 euro, vuoi mangiare da crepare, fare, ti porto io in un ristorante cinese a Predanita, dove siamo andati noi in Greffa una volta e praticamente abbiamo mangiato di tutto di più sino al gelato. Addirittura tu prendi se c'è il service, no, se c'è la roba vai ti servi da solo, le prendi quanta ne vuoi. Però te la devi mangiare, se no paghi la multa. La roba che prendi te la devi mangiare, se no è meglio che ce la butti, la buschi, perché se no ti fanno pagare la multa. Beh, fatto sta che arrivato sino al gelato, ho preso un'astice, l'ho portata, me l'hanno cotta davanti e me l'hanno data. È una cosa, mi ho mangiato un'astice da solo. Poi, queste coscette, gli uccibili dicevano loro, ma chissà di cosa erano, me le ho mangiate, ma non era assai convinto che erano fatte impanate e fritte. Non so se erano cosce di topo, di che cosa era. Le ho mangiate un po' così, Marco, tentennato. Poi, sì, ho mangiato un po' di roba. Lì era buona. È presente dove c'è la Alden Ground? Sì, a fianco c'è Wok. Solo che questi cinesi, no, ti danno a mangiare pare, ma io mangio pochissimo. Io non potrei andare in quei posti cinesi. Io mangio poco. Non, lì devi mangiare a furia dura, non è per me. Oddio, ma quelli involti di primavera di cosa sono fatti? Ne sento parlare, però non li ho mai mangiati. Non lo so cosa c'è, mentre sono fritti impanati, che non si capisce cosa c'è. Se è carne, forse tribone di pollo, roba del genere, involti di primavera. No, sono buoni, non è che sono quelli, sono buoni. Anche il gelato fritto, cazzo, rimane caldo fuori e freddo dentro, è una cosa particolare. Il pollo alle mandorle. Vedi, da Wok si può andare, con 17 euro si mangia quanto vuoi, Claudio, da creparti. E se il service ti alzi, ti servi, nessuno ti dice nulla, ti prendi quello che vuoi, anche un bel di roba. Io guarda, c'era un dottore che io conoscevo il giorno che c'ero io, anzi mi c'era anche il giorno che c'ero io, lo sai chi c'era, Sandro Tigre, e c'era anche praticamente un dottore che io conosco, no? Che è molto ingordo mangiando, perché ho fatto molte cene con lui, perché è parente di amici e cose. Beh, questo qui si è alzato due o tre volte, io ero cribbato e lui si è alzato due o tre volte a mettersi la roba, si è rifatto il giro due o tre volte, c'era la roba, metteva un po' di tutto, prendeva piatti su piatti, ha mangiato come un cane, la voce è desumana. È ingordo. Non è uno che sa mangiare così, ha bisogno anche di rilassarsi. Quando mangi così che ci butti tutto dentro è un casino, come fai? Assolutamente, non va bene. No, ho capito, si è andato tutto, sì. Si mangia bene, però ti ripeto, io queste cose non è che le apprezzo molto, non mi piace mangiare così, capito? Mio figlio e mia moglie sono malati per questo sushi, per te l'idea. Allora, da Wok a me mi hanno convinto, perché io, Claudio, non, per queste cose cinesi non sono molto d'accordo, perché ho sempre paura che si buoni i suri, i gugani, i mezzu. Quello di Via Pasqua li avevano chiuso perché li avevano trovati i cani appesi nel frigorifero, cazzo, pronti a fare. Però sai cosa mi sono preso? Un'astice, te la potevi prendere cruda, anche il pesce c'era. Ho preso un'astice e me l'ho fatta cucinare davanti, me l'hanno cucinata davanti e mi ho mangiato un'astice da solo. La porzione. Un'astice da porzione, sì. E poi ho mangiato queste coscette che un po' tentennante, non sapevo di che cosa erano, impanate, erano buone, però non so se era di Zurigo, di così, dai. Poi il giorno dopo Sandro mi fa, già ti ho visto che c'eri e cosa, ma lo sai che ho trovato gli stessi cinesi che c'erano in quel ristorante lì, mi ha detto che era di compare dei mangi per i cani. Tutto il giorno mi sono cubiandato. Mamma mia, che segno brutto. Magari ci avevano i cani anche loro, cosa ne so. Questo mangi per maringare, uia. Se sarei fatto mangiare al cane se l'avevo mangiato, Vicla. No, ma è per quello che non... Non sono... non sono molto avanti a queste cose. C'era il Viale Dante, un bel ristorante cinese, era sempre pieno, sempre pieno. Non so se è ancora attivo. Però ci va molta gente, ci andava molta gente. Quindi sicuramente qualcosa di buono c'è. Però non sono molto affidabili a queste, alla cucina cinese. Ti ripeto, sul crudo, mia moglie e mia figlia se lo fanno anche portare a casa. Ma non te danni. Poi lascia aperto. E tu volete mangiare il crudo? Ok. Bene, il merluzzo lo scongelo. Io lo taglio tutto a pezzaretti, un pochettino di olio crudo, lo mangiate. Oh, ma non è così. E allora cos'è? Sì, è roba cruda. A me mi ha nauseato, dico la verità. Come me lo messo in bocca, già. Mi stavo facendo gara di butta. Poi gli ho detto, Marco, mangiatelo tu perché non ne mangio. E no, ma è buono, papà. Non è buono, a me non mi piace. Non è roba che piace a me questa qua, boh. Non è roba per il mio palato. Poi noi abbiamo un certo tipo di alimentazione, siamo abituati a quella, è inutile che noi cambiamo alimentazione per poi farci male, come già è successo a me all'emiciclo, quel cinese dell'emiciclo mi ha fatto vedere di arrivare a 3D. Ma infatti perché non è affidabile, cioè è un mangiare non sano secondo me, perché ho capito che gli esquimesi mangiavano tutto crudo. No, io non sono esquimese, io la roba la voglio cotta. Bitre, finito di mangiare. Ma Claudio, io sono per dire per le verdure, per la carne, per i formaggi, queste cose qua, è roba semplice, mi piace, non mi piace la roba troppo, ma che poi non conosci che cosa c'è, capito? Perché tu la vedi impanata, e cosa sono queste cose impanate? Pane di coscette di uccello, però se sono di topo, di che cosa sono non lo so, e sa che cosa è, quasi pure un rizzo di marcia, quasi cascia di cose. Sì, ma infatti non è una cosa affidabile, non sono cose affidabili, poi ripeto, c'è chi piace, ma a me non mi interessa. Io quando vado a mangiare fuori, se vado in pizzeria mangio la pizza, se c'è il piatto composto mangio il piatto composto, ma sempre a quelli veri, capito? Dove chiaramente sai che cosa mangi. Adesso a poco, per dirlo a Marco, il suo ex amico mi ha invitato a me e a mia moglie sabato a Campanella, capito? Che c'è il giro pizza. Non so se ci va, perché non è troppo lontano, cioè vale, però è veramente buona. Ci sono già stato, è buona veramente. Me l'avevi detto, sì. No, vabbè, ma no, io non ci vado, è troppo lontano. Qua, quando io vado a mangiare la pizza, vado a Porto Torres, se vado a San Gavino, lì c'è una gentilezza e l'ambiente mi piace, mi trovo bene perché io conosco a loro, conosco tutti il capo, diciamo, lo chef, dai, conosco tutti quanti, quindi se vengo servito, riverito in tutti i modi, quando io porto gente è stata sempre contenta, ma questa gentilezza ce l'hanno con tutti, si avvicinano a te per vedere se sei soddisfatto, si fanno quattro chiacchiere, con me particolarmente perché mi conoscono i bambini da quando erano piccoli, perché ci sono sempre andato lì, adesso che sono grandetti, io ho detto, vedi, questo mio figlio, ma io ricordo quando erano piccoli già, per dire, no? Io ci vado spesso lì, abbiamo festeggiato anche quando ha preso la patente Emanuele, abbiamo festeggiato lì, siamo andati lì all'aperto d'estate, c'era il lume di candela, proprio nel tavolo, una cosa romantica, bella, proprio, cioè ti porta, c'è un po' di gente, mi sono venuti, No, io poche volte sempre mi sono andato, la figlia mia, la portatoria è stata sempre da Teseo, brava Massimo. Adesso c'è l'altra pizzeria, quindi un po' vai a Sadomo, un po' all'altra pizzeria, sempre lì. Mi sono sempre trovato bene a Porto Torres, però se vai a Porto Torres, la Porto Torres non è a Campanella, è molto prima di Campanella. È come superi l'incrocio del Rosario, 2 chilometri si è arrivato, è a destra di dove c'è il campo d'attivo, capito? Il tiro al volo. Quindi non è a Campanella, Campanella. Fa parte di Campanella, ma non è Campanella, Campanella. Deve andare a Campanella molto più lontano. Quindi una volta sono a Portogallo, posso anche andare. Capito? Se non qualche volta andavamo lì a Coso, da Massimiliano, da Piazza Garibaldi. Ci mangia bene lo stesso, però veramente io ho fatto Tolose, veramente, io a pizza mi piace quella da Alghero, a Lido, siamo sempre andati lì nel periodo estivo, diciamo, capito? Sì, vabbè, ognuno ha le sue abitudini, però ti assicuro che è molto meglio di Massimiliano Ciria, perché Massimiliano Ciria, dalla volta che io ho fatto quella figura, se ho portato gente di fuori, che sono venuti al continente a trovarci, eccetera, eccetera, ho fatto questi amici, ci ha dato la terrazza di sopra, già c'è il condizionatore, sì, c'è il condizionatore, non c'è problema, un caso, in piena agosto. Beh, il condizionatore che non funzionava, aspettando 3 ore, cioè, alla fine abbiamo pagato la roba da bere e ce ne siamo andati, no? Cioè, non faceva, c'era il cameriere che vi scendevano le gocce sulle pizze, cazzo, cioè non puoi vedere certe cose, sudato, tutto sudato perché non funzionava il condizionatore, le gocce mi paravano andate alle pizze, l'avevo visto lui, servendo le pizze e cadendo il sudore sopra. Ah, va via, di chi fu? No, una volta quando siamo io e mia moglie, a Porto ci andiamo anche da Carmela, da Tana, lì alla, prima del campo sportivo, là, in piazza, lì, sono molto brava, pizzaiolo il marito, sono molto puliti, molto ordinati, molto intimo perché insomma è piccolo, piccolino, quindi io ci passo prima, glielo dico, Carmela lasciami un tavolo, ci finisce non ti preoccupare per suo rimetto. Dice sempre così, oppure se le telefono lo stesso me lo lascia, ma sono tanto che non ci andiamo. Però anche lì la pizza era sempre buona. Oppure mi sembra mangiare calamari, pesce da Garibaldi, ho fatto lo bicchiere, dove c'è l'Avis lì, dietro a Ponte Romano, la Donatella. Lì la pizza è un po' così e così, però se mangi il piatto composto è come quando mi hai portato tu già, perché lui, il padre era pescatore, quindi conosce tutti, le portano il pesce sempre fresco, i calamari, i polpi, capito? Tutte le cose. Ma che cos'è una trattoria? Era una trattoria prima, te la ricordi? Bravo, c'era la trattoria lì prima, sì. Adesso è pizzeria e ristorante, c'è una bella saletta dentro, poi c'è fuori, c'è sul marciapiede, diciamo, è fuori però con la tenda, tutto ben organizzato per l'estate, capito? E adesso sono un po' che non gira a Porto Torres, non avendo il furgone. Non c'è l'ultima visita, mi hanno tolto la guida, magazziniere per 2 anni, il dottore del lavoro. E loro cosa dicono? No, niente, cosa devo dire? Ma cioè, praticamente mi hanno scritto che sono idoneo, ma doveva scrivermi direttamente che non ero idoneo e basta, che non posso sollevare più di 15 kg di peso, ha scritto. No, non idoneo non lo farei mai scrivere già, con quella clausola non perdere il posto di lavoro, stai scherzando? No, sono idoneo a determinate cose, a fare determinate cose, e loro devono rispettarle, è così. Non posso fare sforzi, posso prendere solo pesi massimo 15 kg. Certo, vabbè, adesso la peso la roba prima di prenderla. Sì, ma tu lo sai, non che stavo facendo la domanda, se lui scriveva che non ero idoneo direttamente avrei preso la pensione, invece così se mi la in luce, perché ho dovuto presentare all'Inps quel certificato, me l'ha bloccata la pratica quando sono andato, perché ha detto che mancava il certificato e mi dico il lavoro, gliel'ho fatto fare e mi ha scritto questa cosa e l'ho dovuto spedire tramite fax, capito, all'Inps. Mi ha fatto il favore che mi ha messo la pratica da parte, perché un altro avrebbe continuato la pratica e l'avrebbero poi abolito perché mancavano per mancanti certificati. Beh, certo, sì. Ti volevo dire a proposito dell'Inps già, sono andato io già un po' di volte, non ho più visto quel tuo amico, quello basso, mezzo capito. cappellone e mezzo senza capelli. Sì, Adriano, poverino, è andato in pensione. E non lo saputo, ha avuto infarti. Ha avuto due infarti, mi pare. Non sapevo, molto gentile. A me non mi vedeva da lontano, prendo il numero, mi chiamava subito, capito? Molto gentile, non sapevo, non ti pensione, ma da molto. Già da un po', sì, ha avuto, è stato malissimo, se lo vedi essere magro, non lo riconosci più. Che miseria. Casino, perché è giovane, è l'età nostra, cioè. Sì, più o meno sì. Avrà qualche anno in più di noi, non avrà 59 anni. Vabbè, siamo lì. Non so perché non l'ho più visto, sono andato già due volte, non l'ho mai visto, di solito stava sempre lì proprio ai certificati di malattia oppure alle pratiche proprio pensionistiche, eccetera. Non l'ho più visto per quello che l'ho chiesto. Va bene. Marco, e allora? Ho finito quasi adesso. Ditemi tutto, adesso mi viene la biocco, tanto mi. Tu pensa, Claudio, che lui veniva a casa a cena il giorno prima ed era lui che mandava il medico fiscale a casa, lo sai? Non mi ha mai detto, stai attento che domani viene il medico fiscale, magari domani che lui veniva a cena veniva il medico fiscale, mai si è permesso di farmi capire qualcosa. Vabbè, fa quel lavoro già, Però cosa devi fare? Non è che poi uno è l'amicizia, uno è lavoro, e quello lavora molto, molto delicato. Ma no, era molto, era molto inquadrato sul lavoro. Adriano era una persona veramente doc. Io sono andato a trovarlo da poco perché me l'avevano detto che era malato, che è stato ricoverato all'ospedale. Poi mi ha detto Liliana, già l'ho visto, mamma mia, non l'ho manco riconosciuto come magro. Andiamo a trovarlo, e siamo andati a trovarli e ha dimagrito. Lui ha dimagrito anche la moglie, che era molto robusta la moglie. Ha dimagrito perché lui deve mangiare determinate cose, quindi deve cucinare queste cose praticamente che non fanno ingrassare, eccetera, eccetera, e ha dimagrito anche lì. Beh, normale, quando poi c'è una patologia di quel genere in famiglia, si cerca di fare ciò che si può. Vedi Marco lì, c'è roba al fuoco. Eia, non saprei cosa dire. Marco, ti sei trovato in imbarazzo. No, più che altro, sai, dopo che mangio viene un po' la... Il sangue affluisce più al stomaco e poco al cervello. Mi viene la biocco, capito? Poi c'ho anche freddo, ho la giacca, ho freddo alle mani, c'è freddo mi. Cioè dentro casa c'è più freddo di fuori, di giorno, lo sai. No, io sono la maniche corte, Marco. Sono la maniche corte a casa. Eia, beh, lì c'è riscaldamento centralizzato, come si dice? Sì. C'è riscaldamento, sì. Ma io sto benissimo a maniche corte. Eia, lo sai che non stiamo usando stufa Zibro, non stiamo usando stufa gas, nulla. Cioè c'è freddino, ma non abbastanza da usare la stufa. Ma avete la stufa Zibro voi? Come già? Ci avete la stufa Zibro? Sì, una, però non quelle piezoelettriche, quella che vedi proprio la fiamma, che è parabolica. Cioè vedi proprio la fiamma, no? E poi le altre sono tutte a gas, con la bombola. Vabbè, questa Zibro conveniente. No, costa un bel carburante. 20 litri costano 50 euro quasi. Quando il kerosene costa meno. Scherzo. No, allora conviene sempre con la pellet. Quella pellet è il massimo. Se avete 1000 euro per comprare la stufa pellet, fate da. Pellet. No, non ne abbiamo 1000 euro per la pellet, altro che, se no l'avremmo messa. Quando me li ritorni? Marco, quando me li ritorni? La quattordicesima o con la tredicesima? E cosa? 1000 euro. Quali euro? 1000 euro, hai detto, ti servono. No, ma non emettiamo a pellet, no, è un casino qua. Praticamente in quell'angolino non ci sta in larghezza. Ci sono in tutte le maniere qua, tutte le misure. Senti, ma... perché poi quelle case sono fredde, mi crepano di freddo. Queste qui, io bene e male, c'è il riscaldamento, io volendo non ne attacco nemmeno, lo spengo, passa tutta la tubazione qua degli altri appartamenti, capito? E scalda la casa. Sono finito a pelle, sono 23 gradi, solo che non lo voglio spegnere, capito? Si spegne automaticamente alle 9. Ci sono 23 gradi, no? Marco, settimana da Luigi, il marito di mia nipote, Adeline, Air Comfort, te lo boni la cosa, la tuffa a pellet, come Dio comanda. Se vedi quella che c'è lui a casa sua, micidiale, è dentro il muro già, sembra un forno, si vede questa fiamma sempre, un caminetto dentro il muro. Io invece l'ho visto a casa di una donna che aveva il camino e praticamente dentro il camino si è fatto mettere quella pellet di lusso, si è messo la stufa a pellet nel camino, non ha dovuto fare manco impianto per uscire fumi e cose, lo faceva direttamente la canna a fumare. No, ma lui il camino ne ha, praticamente in una parete lui, come mette il forno incassato, no? Così, c'è questa vetrata e tu vedi la stufa a pellet, cioè questa stufa particolare, molto particolare, beh, è dello bipolare, quindi, molto particolare, che sembra un camino, c'è sempre la fiamma, capito? Ma c'è una scalda, e poi c'ha tutte le condotte, c'ha tutti i cosi in ogni stanza c'ha le condotte dell'aria che esce, no? Dell'aria calda, sempre mandata da questa stufa. Si è fatto proprio l'impianto, là. L'impianto proprio come se ci fosse le pompe di calore. Sì, in effetti sono delle pompe di calore che emanano aria calda, là. Sì, che ha detto, ma lui questo al pubblico quanto costa? Ma ha detto, lasci perdere, è difficile che le vendiamo queste, ma non che proprio non sia gente d'alto livello che abbia quattrini. Beh, 7-8 mila euro costa un impianto del genere. Sì, vabbè, c'è anche quello che magari c'è qualcosa da parte e se lo fa l'impianto. No, io guarda, vado per il riscaldamento, non devi stare a carrasacchi, fatto, mamma mia, a meno che uno non abbia riscaldamento, è diverso aspetto. Esciu. Oh, mi sei sentato un attimo, ha detto, aspetta, io sono qua, non ho tanta voglia di parlare, sta venendo la Biocco, mi piacerebbe più sdraiarmi e accendermi la TV. Capito? Vabbè che fra poco sono al cellulare. Mi guarderò il TG, dai, telegiornale. Cos'hai detto già? Sono al cellulare, un attimino. Io aspetta, ma intanto sono 7:30, dai. 10 minuti, poi vado a portare il cane, anche già, quindi chiudiamo, c'è mille luci. Passiamo tutta la sera in radio, vai. C'è Valerio in ascolto che sta facendo cose. E niente di che, va bene. Ovviamente c'è un ascolto. Infatti ho detto niente di che, c'è l'ascolto. Oh Gianfra, ho acceso quell'affare, allora, quello traffico eccetera eccetera, il primo, lì praticamente esce tutta questa schermata che cammina con tutti i nominativi eccetera, va bene, l'unico che è vero, gli altri non me li fa vedere. Probabilmente quello che c'è là è niente, giusto come lo stai consultando col browser, il browser sarebbe quello che si apre per andare su, per andare su, ci mettiamo un attimino al computer acceso, mi ci vado a fare, è molto bello, molto bello, gli altri no, gli altri non li fanno capire, lì c'è proprio il disconnesso, mentre quello è connesso, però no, non mi fa fare altro. Sì, perché vuole fare ascolto senza imbarcarsi in apparecchi costosi, è l'ideale. Qual è tutta la rete di apparecchi digitali come quello che ha lavorato, si ricorda. C'è una rete che è mondiale, c'è anche quello che puoi collegare con qualunque parte del mondo. Ovviamente il PC studio sono i canali nazionali, sono vari canali, sotto canali, no? Quelli attivi o mediogruppi si chiamano, quelli attivi sono i gruppi nazionali, tipo Italia, Germania, Stati Uniti, ce ne sono, sono sopra parlare. Però siccome che la raccomandazione che c'è anche tu c'è quella di utilizzare Google Chrome per Explorer da problemi. Anche a me infatti se valorizzo non so vedere. E ascolti l'audio proprio, perché se noti anche su quelli che ti scorrono, c'è la tua parla fino. E se ti chiedi poi ti fa ascoltare lo stai dicendo. Mi ci l'ho visto, bello, bello, anche nell'altro, negli altri che però non mi fa vedere, appare anche regolazione del segnale, regolazione di tutto, capito? E poi lo vediamo con calma, vedere se riusciamo a farlo funzionare. Dici come fare. Marco, mia Gianfranco, aiuto, svegliati. Ehi, ma Explorer non è molto adatto, ma come lavora quel programma? In Java? Active, come si chiama? Flash player, niente ne sai. No, lascio perdere Active Flyer, qua con quello, una volta al dopo quello c'è tanto che succede, non ci sono problemi. Compreso è Marco? Sì, sì, vabbè, io ho Firefox, ma non. No, chiedevo com'era il programma solo. Non che lo devo mettere. No, è un programma, è un sito come può essere YouTube, come può essere Google, è un semplice sito. Solo che ha la funzionalità di andare insieme audio. Quindi uno che non ha l'apparecchio e vuole rendersi conto di come si sente, che non lo può vedere in real time, lo mette e ci va sopra, sono proprio di dati URL, e quindi ci vai lì, ma si può scrivere, se tranquilli, se vuoi, tanto non ricordo lo vuoi a fare, perché è l'ultimo. Praticamente cos'è? Una web SDR, una cosa simile. Allora, come tu non sai, c'è una rete mondiale di apparati digitali DMR che è come tutti gli apparati. E ancora meglio di tutti voi sono collegati in rete, quindi dietro nel pannello posteriore tutti i ricettori che hanno una presa RG di rete, questi si collega e va su una rete configurato il ricettore eccetera, quindi tutti quelli che si vedono ancora sono tutti i ricettori sono sia i ricettori e vivono sia le stazioni che stanno a casa con i ricettori, sono fai altro che collegati a una determinata rete, può essere quella italiana, quella americana eccetera, tutte stazioni. No, comunicazione in tempo reale, ovviamente dato il teoria su quelli professionali si potrebbe anche trasmettere, su quello ovviamente è una storia del mondo, cioè senza lo però uno si fa un bel ascolto, soprattutto quando la succede eccetera eccetera. Capito mia? Sì, sì. Vabbè. Vabbè, sul sito lo cerchi, con tante tutto, ma magari se non lo trovo, fa un po' perché stavo di altro tutto. Magari non è stato quanto giusto. Oh, nel frattempo voi state scaricando, io vado a portare il cane, ok, esatto. Mamma mia, c'è anche Gianni, dice chiudo la finestra, c'è un pigiamino leggero, c'è senti Gianni al telefono, se ci siete rientro subito, vado un attimo a portare il cane dopo. Va bene, d'accordo, qua sentiamo, sentiamo dopo. Non c'è tanto freddo, poi c'è più freddo niente, sì, ma sai, adesso io lo un poco qua, ma lo sono adesso, sai, quando non vai a questa mano qua, di destra. Marco, no, non lo so, ma non lo ricordo, lo vediamo. Vabbè, comunque, dove abbiamo chiamato? Ehi, ehi, io quasi quasi chiudo, sono, non ho voglia di parlare oggi, come sempre, no come sempre, alcune volte dopo aver mangiato mi sconcio e non, non ho voglia, mi dà, e chiudo, ci sentiamo domani, ciao anche Gianni, c'è l'ascolto, dai, mi guardo il telegiornale, mi stendo a letto. Mi guardo qualcosa in TV, dai. Ciao Gianfra, domani. Ciao Claudio, se si ascolta ancora. E Gianni anche, dai, a domani. E io qua sono, mi sto preparando. Ciao Marco, vai. Allora, buon fine serata, buon tutto, grazie per le due chiacchiere. Gianfra, se ci sei, sentiamo dopo. Ci vuole adesso Gianni al telefono, vai. Ok, va bene. Quando sta già andando a letto lui, quali sono i sacchi di cento che carica? Beh, questa roba ci mangia, ma è normale, a me dopo pranzo mi viene la biocco, ho capito, un'oretta me la faccio sul divano, chiaro che se prendi a quest'ora è così, è normale. Si è mangiato mezzo pollo, Ah, faccia da casa. Io non lo ricordo mai che ho mangiato. Ah, si è mangiato una pizza. Ho mangiato direttamente, cioè non faccio sempre. Ho mangiato un servizio. Niente se mi chiede, ha capito? Alla pirata. La vetta è mezza. Fino a praticamente alle 5:14, ma si fa fare finta, quindi è così. Io quando sto pranzando regolare già qualche settimana, sono a casa, quindi si fa tipo il cane, poi verso le 8:15, dipende, dove sia già tutto pronto. Ceno, poi TV e basta, siamo arrivati domani. Vabbè, dai, se dopo ti richiamo quando salgo, vi richiamo. Ci dovrebbe essere Gianni, ti ripeto, al telefono, quindi se chiama, salutalo, io sono andato a portare il cane. A dopo, ciao a tutti. Ok, siamo un po' sotto Gianni, sono un po' sotto l'ascolto. E al telefono già chiama quando ha finito, lui è solito portare il cane. Ah ok, va bene. Claudio è andato giù a portare il cane, è diventato un po' detto di dirtelo, di farti questa comunicazione. Ciao Gianfra. Chi è rimasto? Marco c'è. No, Marco si è cacciato dal sonno perché adesso che sarà tutto il giorno scaricando un affaccato di cemento e adesso se ne va a fare. Ui, non ce l'ha fatto. E tutto il giorno sono addormentato e sta rotta a pignara. Marco, ci sei? Nada de nada, tu sei rimasto solo tu, Gianfra. Sì, lascio un po' l'andato con un po' questo. Se ti interessa anche a te, già ti piace fare ascolto tramite un live che c'è su un sito, se c'hai Google Chrome ti metti un indirizzo e ti ascoltano per quel modo, senza niente, senza fare tutto. su Google sì che ce l'ho Google Chrome, cioè io c'ho quello, cioè uso quello lì Google Chrome. Allora, è tranquillo, anche perché hanno una DSL abbastanza, diciamo, anche da un mega per dire, va bene lo stesso, se non un mega. No. Mi interessa qualche parlare, se qualche problema. Se vai su Google, ti fa la ricerca, metti... come era? Vabbè, se dovevi fare lo Teams, però... Aspetta! Non c'è niente da scrivere. Chi l'ha detto? Aspetta un attimo, io in stazione c'è tutto. Io praticamente qua in stazione c'ho il computer, c'ho il cassettino col computer, tiro fuori il cassetto e c'ho l'agenda con la penna, quindi c'ho tutto, aspetta. Oh Gianfra, sono andato a prendere la penna e non scrivevo, ma mi ha già vindacciato, ma io dimmi questo indirizzo. Anche le cose semplici si guarda. Allora guarda, ti faccio lo spilling così almeno sei... insomma non puoi sbagliare, dai. Allora inizio. Hotel Costa Sierra Eco. Punto. Bravo Romeo Alfa November Delta Mike Eco India Sierra Tango Eco Romeo punto. Di qua? Allora Hotel Oscar Sierra Eco BRANDM India ST poi O e l'ultima cos'era? No, non metti anche i punti però te lo ripeto da capo. Allora Hotel Oscar Sierra Eco punto bravo Romeo Alfa November Delta Mai Eco India Sierra Tango Eco Romeo punto. L'ultimo è November Eco Tango Whisky Oscar Romeo Fino. Te lo leggo Jose Grand Meister punto network. Kilo l'ultima? Sì, Kilo. Oh, contiamo questo, basta che ti fa la ricerca su Google e ti dà l'indirizzo relativo, anche se magari ti sei sbagliato. No, non l'ho capito tutto. Jose Brand Meister Network. Ah no, non l'hai capito ancora? Cos'è non chiaro? Cosa dimentico? No, l'ho capito tutto, io ce l'ho tutto scritto. Tutto scritto. E adesso vado e lo metto subito. Sì, allora aspetta, ti apparirà tutta la lista di nominativi che scorrono. Però saranno solo nominativi. Per fare una... per andare in accordo, diciamo così, per poter ascoltare velocemente, perché questo ti dà tutta la retta, la pagina iniziale. Guarda, la mia cosa che c'è sotto dove c'è l'URL, e qua è dove c'è scritto Explore, che è la penultima voce, dopo c'è collegato, e ti dice per regione, per contea e per tecnologia. Allora ci interessa i compiti per nazione praticamente, che è quello dove c'è tutto. Qua è tutto l'italiano, ad esempio, ci dovrebbe essere qualcuno di norma, c'è qualcuno. Se non senti quello italiano, vai su quello americano e sicuramente c'è gente. E poi c'è anche un bel impianto nel computer, c'è un impianto di casse con subwoofer che toccato qui, dovrei sentire bene. Sì, vabbè, non c'è bisogno di apparecchiate per ascoltare le comunicazioni con una banda abbastanza bassissima, quindi non è che è scato a livello telefonico, guarda. Ah, sto scendendo il computer, vediamo un po'. Io fra poco devo scendere anche io a portare il cane, che ore sono? Tu quanto me lo dici, fra poco scendo. Sì, il canale è quanto? Sul canale italiano c'è gente, lo puoi provare, sì. di... E qua me ne dà tanti però, aspetta, me ne dà tanti. Allora io ho messo, me l'ha dato proprio in automatico, diciamo la, per fare la ricerca. Come lo stavo mettendo me l'ha scritto direttamente il computer. Però qua c'è Baymeister, Dashi, Boart, Oz, Brandmeister, Voice, DG222, KCD, OAM, Radio, eccetera, eccetera. Qua mi dice un porto con delle barche, adesso, dall'inizio. Benvenuti in Ozline. State per entrare in un sito sperimentale che offre audio simili di gruppi di compensazione della rete radioamatoriale DMR Brandmeister. Continuando in questa pagina l'utente accetta e riconosce. Ti sento già. Adesso non smetto, adesso c'è però un cane, lo vedi? Qui Italia 1993 Gorosi in via Verona. Studente di perfettamente, nessun problema per ascoltare. Ci sono, Sì, sì. Ma lo guardiamo, quelle lì sono un po' sopravvissute. In realtà io la comunicazione la sto ascoltando con un leggerissimo anticipo sulla radio, perché ovviamente trasmesso via PC ci sono delle latenze diverse, non è istantaneo, c'è qualche millesimo di ritardo, secondo di ritardo, forse anche qualche cosa in più. Si sente che c'è un ritardo. È come il televisore, no? Io ne ho due di televisore, se metto lo stesso programma, in uno ricevi prima, nell'altro ricevi dopo, te li immagini? Quello dipende dalla velocità dell'elaborazione del computer che ha fatto il computer. Anche quelli sono computer, solo che ha fatto il fare determinate cose, sono computer, sono programmati per Nvidia, dai. Guarda, eravamo passati dal mondo, ma quelli che si sentono più facilmente sono questo canale italiano, poi quello americano, che non si capisce niente ovviamente, perché sono... Sta parlando tranquillamente, adesso si sente bene. Qua ci sono tutti i nominativi, ah, metto Italia, scegli una lingua, italiano. Ecco, se poi vuoi andare la nota parte sopra, vedi che c'è il fiore, quello lì contiene tante bandiere che sono una nazione. E lì tu girare un po' la testa. E devo My Region, quella lì. Ci dici già tu? Sì. E non mi appare sopra la cosa dei nominativi, le bandiere e tutto, però non mi fa andare avanti. Come non ti fa andare avanti? Metti Explorer. No, Explorer non funziona. Io c'ho Explorer, non mi funziona. No, cos'è Explorer? Io c'ho Windows 7, cos'è Explorer? Windows 7 è un operativo, non c'è un tutto, ma stiamo parlando del browser di Unix per navigare su internet. Questo c'è quello che c'ha l'AI, se mi intende, come come. Sì, quello lì. Sì, quello lì non va bene. Deve andare su Google, su qualche motore di ricerca, e mettere Google Chrome, oppure Chrome. E devi fare tanti, non c'ha problemi di... Non ci ho capito. Vabbè, adesso sono già le 8. Adesso ho giocato con lo spinale del pesce, lo stemano io, un po' di cose in cucina. Domani mattina me lo faccio. Le voce io allora già fra. Google Chrome. Sì, appena metti CH per mettere Chrome, automaticamente te lo scrive lui, se mi ha fatto. Immediatamente, ma spero che già andando su Google vuoi scaricare Chrome, lo scarichi, lo installi, e apparirà quell'icona, che mi sto lasciando, ma sono abbastanza veloce, ma è pettinata, è una tappa. installati è già remoto, non più che quello mai installati Luca, è già pronto, metto solo quello lì e basta, lo faccio andare così domani mattina mi viene detto lei. Vabbè, sono le 8 ragazzi, io vi saluto, sono entrato, adesso vi saluto, vado a preparare la cena, non do una mano a preparare la cena e poi ci sentiamo. Ciao Gianfranco, ciao Gianni, Marco se sei ancora all'ascolto, chiunque fosse posso dirci. Buonanotte a tutti, a domani, già alle 8 sono. Ehi, sto andando, dai, ciao Claudio, ciao anche a Gianfranco, dai. Grazie per l'indirizzo. E comunque c'è un leggero ritardo, non è perfetto perfetto. Guarda, tu il ritardo non lo puoi notare. Quello che senti, che senti il ritardo, in realtà è la voce reale, seconda anche del segnale con cui sta impegnando il ponte, e quindi entrano in gioco dei fattori di correzione d'errore anche. Quindi ci sono varie cause. La voce che senti è praticamente quella che io sento alla radio, quindi non c'è problema, capito? Ok, buona serata, comunque se stai andando via, ci risentiamo, dai, anche per Claudio, a domani. Ehi, dai, ciao Gianfra, ci sentiamo, ciao anche a Claudio, dai, tutti gli amici che sono in ascolto, sto scendendo giù, ciao. Andiamo giù. Sì, come mi guarda, ciao. Sì, ma che tanto non comprende, ciao già. Ciao Gianfra, sì, a domani, fatti sentire però, cazzo sei sempre all'ascolto, non entri mai, ma io, e così vediamo questa cosa, ciao. Sono incardinato, ultimamente ti immagini, da poco fa ero a Pedro, chiamando un presidente studio, ce l'abbiamo una provincia, guarda, ha alcune risorse, forse la prima colpa, poi domani dovrebbero arrivare del materiale da mettere, con le culture installate. Non so, dai, per quello che si l'aveva accendo a persona, ma sono una cosa di là. Ehi, Gianfra, va bene, dai. Io sono a casa, però qualcosa c'è sempre da fare. Va bene, dai, ci aggiorniamo allora. Ciao, grazie, buonanotte, ci sentiamo, ciao a tutti, bye bye. Ok, comunque fai il tentativo, fai il lavoratore, vai immediatamente, non è che ci sia bisogno di farti spavare il coppe, così almeno vedi un po' come si pensa, ed è molto utile perché prima di andare su acquisto di una radio, cioè è meglio che sappia che cantaci, ecco, che va a rimanere qualcosa. Va bene, a domani. Papà, ci è venuto un messaggio, va bene, no, ma c'è una voglia, ce l'avrei fatta adesso. Ci aggiorniamo domani. Ciao, grazie, ciao a tutti.